come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Ti potrei schiacciare. Dove sei, ma dove sei? Ti stacco il pungiglione. Dove sei, ma dove sei? Smetti di ronzare intorno a me. Sento là che ci sei, ti sento zanzarare. Provaci, provaci e smetti di volare. Eccoci qui, la zanzara, 18 e 7 minuti, cari ascoltatori, una nuova puntata dopo le clamorose rivelazioni smentite, ma vedremo, entreremo nel dettaglio ieri di un ex sindacalista della CISL sui soldi in nero, presunti soldi in nero dati al signor Grillo. Abbiamo Parenzo in collegamento, credo, dalla festa del Partito Democratico a Reggio Emilia. Caro Parenzo, buonasera. Buonasera a lei, a tutti i radioascoltatori. Anche questa puntata è dedicata ai minatori del Sulcis che stanno continuando nella loro lotta. È partito, ma chi se ne frega? Hanno indetto una conferenza stampa a 400 metri sottoterra, uno di loro si è ferito ad un polso. Ma non me ne frega nulla a me. La battaglia dei minatori è la nostra battaglia. Ma non è vero, sarà la tua battaglia, non è la mia. Ridere, perché questa è una trasmissione in cui si ride, si scherza la notizia, ma vai, ma io non ho capito. Senza o inequivocabilmente stiamo dalla parte di queste persone che ma stanno non è vero. Per il lavoro, per il diritto al lavoro. Vabbè. Capito? Senti, hai sbagliato. Ora, radio, vai a fare queste prediche insulse a Radio Popolare, a Radio Radicale, invece, a Radio 3, non so dove vuoi andare. A fare anche nei tuoi confronti una protesta non violenta. Ma quale protesta non violenta? Su cosa? Ogni giorno il bollettino di quello che avviene. Ma lo farai a casa tua quello. Ma lo fai a casa tua, non me ne frega niente a me qui alla zanzara. Sono dei minatori che lottano per un posto di lavoro. Leggetevi la storia di Valentina Zurru, minatrice. Ma non me ne frega niente a me, leggila da un'altra parte. Che racconta la sua storia. Ma leggila da un'altra parte. Valentina Zurru, siamo con te. Ma non è vero, sei con lei. A me non me ne importa nulla, faccio un'altra cosa, un altro mestiere, un'altra trasmissione. Non mi rompere le scatole. Vai a Radio Popolare, vai a Radio 3, vai a Radio Pinco Pallo, vai a Radio Radicale, fai quello che vuoi. Vabbè, comunque, siamo dalla parte dei minatori. Ma non è vero, sei dalla parte dei minatori. Vai, andiamo avanti adesso. Fra poco avremo una grande esclusiva. Il segretario della CISL Bonanni che chiede scusa. Che chiede scusa a Beppe Grillo. Cerca di non farlo scappare con la solita storia di Bossi. No, adesso è qui con Fassina che sta facendo un dibattito e con il grande Dario Di Vico che salutiamo e ti ha anticipato. Ciao, Dario. Ma non me ne frega niente. Ciao Dario, che la gente non lo conosce, di chi stai parlando? Comunque Dario, in ogni caso Vico, scusa un attimo, in ogni caso ti ha già anticipato, ti ha già anticipato che chiede scusa, vuole chiedere scusa a Grillo, giusto? Ti ha anticipato. Notizie bomba. Uno, chiede ma scusa quale notizia a Grillo. Bomba? Non è, notizie bomba in esclusiva da zanzara. Non chiede. Vabbè. Scusa a Grillo. Poi? Grillo non è un evasore e ha detto che mi mostrerà il documento. Ma è già sul sito di Grillo questo documento. Comunque ti mostrerà il documento? Vabbè, allora se hai già tutte le notizie. No, dimmi, ti mostrerà. Allora, manda un altro inviato qui, sono venuto qui a porta. Oddio mio. Allora dimmi, ti mostrerà un documento? Documento dove dimostra che la CISL ha pagato regolarmente la prestazione al marchese cioè, di Grillo. Cioè, sostanzialmente dice che sto Guerisoli ha detto una stronzata. Benissimo. Ecco, intanto ti dedico un pezzo di un film. Senti. Diagnosi. Una donna così tu non la reggi. No. Cura? Scaricala. Ma come faccio? Te ne vai. Piano ma certo. Hai un soprabito. E su in camera. Lascialo stare. Sì. Andiamo. Sì. Coraggio. Ma come l'affronto? Ma che te ne frega? Che le dico? Niente. Te ne vai e non ti fai più vedere. Ma loro come fanno? Via. Bella com'è. Un altro pischero lo ritrova tu, subito. Non ti fare perdere tempo. Ma io l'amo! Zitto, ti sente! Queste sono cose secondarie, senza importanza. Ma poi ti basta. Anch'io ho sofferto. Ho sofferto come un cane per quasi tre quarti d'ora. Vivere è passato tanto tempo. Vivere E lasciamo perdere questo argomento, però voglio dirvi una cosa. Aspetta un attimo. Oggi, amici miei, bravo, aspetta un attimo. Cinematografica è Emilio Fede, scenderò in campo col movimento Vogliamo Vivere. Ti giuro, non è una bufala, questa qua non è la bufala, presunta bufala della CISL, di Guerisoli, eccetera. Vuole scendere in campo, lo dice in un'intervista all'Espresso, con un movimento che si chiama Vogliamo Vivere. È passato tanto tempo. Senti, fondo un movimento di opinione perché ho ascoltato tanta gente che mi incoraggia. Il PDL rischia di diventare uno spartito stonato. Emilio Fede, caro Emilio, perché dici queste cose? Si sta muovendo da solo, mi muovo da solo e ci metto soldi miei. Berlusconi non ne sa niente. Vogliamo Vivere riassume il malessere di tanti sotto il cosiddetto governo tecnico. Il centrodestra non può finire in mano alla Santanchè. Perché c'era tanto con la Santanchè, signor Fede? Comunque, insomma, le sue mire politiche non ha mai nascoste, anche se c'è una frase bellissima che ha detto: mi rivolgo specialmente all'elettorato femminile, mica può andare tutto dalla Santanchè. Voglio stare spento. È un vecchio progetto, amore, voglio dire, amore per la politica e rispetto per la politica. Certamente, perché no? Perché non sono. Ma dove vuoi andare in Senato? Dove vuoi andare in Senato? Sì, al Senato. Al Senato mi annoio. E dove alla Camera? Dove vuoi andare? Alla Camera? Alla Camera. Sì. Alla Camera. Ma perché non in Europa, Emilio? Mi faccio incontrare Di Pietro, sai, questi miei amici, no? Poi la Camera dei Deputati è per i giovani, quindi io ci sto bene, insomma. E sperare di star meglio. Vogliamo Vivere, il nuovo strepitoso, inarrivabile movimento politico fondato da Emilio Fede. Ancora non ci credo, eh. Tu ci credi, Parenzo? Mi pare, lo apprendo da te, mi pare una follia assoluta. Ma chi c'è in questo momento? Vabbè, non lo prendere seriamente, però, scusa, la stai prendendo seriamente. Guerisoli ieri da noi, ricapitoliamo tutto, signor Guerisoli, sentiamo. Ricapitoliamo tutto. Ero segretario nazionale della CISL, sì. Segretario amministrativo, abbiamo invitato il buon Grillo alla nostra assemblea organizzativa, sì. Ha voluto 10 milioni cash, ma tutti in nero. Ancora Guerisoli. E voi come l'avete giustificato voi questi soldi che escono, però, scusi? È stato un problema serio. No, giustificati in che modo? Stanno in bilancio. Quindi appunto, ma come fanno a stare in bilancio se poi in realtà non sono certificati, scusi? Nel 99 non c'erano ancora gli obblighi che dopo successivamente sono stati introdotti per quanto riguarda le certificazioni, il bilancio ed altro, quindi... Oggi voglio stare spento. Ma D'Antoni stesso non si è posto un problema, dobbiamo pagare sì, in nero? Sì, certo, sì, era molto posto, però in quel momento era difficile risolverlo, era una riunione nazionale, assemblea organizzativa, diventava un problema complicato. Ripeto, oggi smentite da parte della CISL, Bonanni fra poco alla Zanzara, il segretario della CISL, Bonanni, è qui con noi, aspetta un attimo, aspetta, di aspettare un attimo, un quarto d'ora, 20 minuti, abbiamo un grande ospite tra poco. Raffa, scusa, puoi aspettare due ma minuti? Ma se dici così non ci crede nessuno, che dici Raffa? Chiamalo come chiameresti, come l'hai chiamato una volta al telefono, com'è che l'hai chiamato una volta al telefono? Bonanni, già, sono Umberto. Volevo dire, spero se mi sente, però si incazza. Sì, sì, si incazza. Volevo dirti che hai fatto benissimo. Quando era a fare in culo quel Grillo, non mi piace niente quel Grillo. Porta via Udi alla Lega. Devo fare l'accordo con la CISL. Accordo con la CISL, cosa? Perché? Stai zitto. Perché sono i pensionati, amici vostri, pensionati della Lega. Amici nostri. Dobbiamo insieme fare un patto con la CISL, patto per l'Italia, e mandare quel paese Cruciani, quella sua trasmissione che mi parla sempre di me, del trotto, però un piccoglione, quel cretino con quei capelli. Vabbè, non lo fare più perché altrimenti Bonanni si arrabbia. Con intanto quei capelli, guardate con i capelli, sempre Cruciani, quella barba corre sempre, dove corre quel cretino, maratoneta cretino. Cretino Cruciani. Giannino è ancora depresso per la questione dell'auto, sentiamo. Tra l'altro, perdonate, ma ieri poi mi sono dovuto qua fino a sera dei danni al mio garage, alla mia automobile, eccetera, eccetera. Veramente non ho parole. Una cosa che mi deprime, che qualcuno abbia deciso di segnare il rientro dalle sue vacanze facendomi a pezzi macchina e tutto il resto, è proprio, non lo so. Non riesco a immaginare che io possa dire cose tanto fastidiose. Comunque la pensiate da meritare una cosa simile, sarà proprio che è colpa mia, forse non mi rendo conto delle parole che mi escono di bocca, mettiamola così. È un troppo come vergognatevi se avete distrutto la macchina. Voi, che sono sicuro siete all'ascolto, se avete distrutto la macchina di Giannino, vergognatevi, vergognatevi di questo gesto. Lo dico se seriamente. Avete coraggio, c'è un grande ospite con noi. Con la macchina di Cruciani, se avete coraggio. Ma che c'è? Perché se la devono prendere con la macchina mia? Ma che no, sei matto? Dico, se avete coraggio. Ma non dire così, che già c'è qualcuno che ce l'ha con noi. Oggi abbiamo ricevuto dei commenti feroci da parte dei grillini, come se avessimo, noi prodotto questa notizia. Qualcuno ci ha chiamato al telefono, il signor Guerisoli, noi non c'entriamo niente. Anzi, abbiamo anche fatto domande per capire meglio la situazione. Aspetta, aspetta un attimo, un grande ospite con noi, Paolo Villaggio, lo sentiremo dopo il traffico. Grande Villaggio, a tra poco. Strade in diretta. Traffico intenso su strade e autostrade intorno alle grandi città, ma anche verso le grandi città, perché proseguono i rientri al termine delle ferie. Trafficatissima verso Bologna la 14 Adriatica tra Marche e Romagna. Le code tra Grottammare e Pedaso sono le conseguenze di un incidente. Alle porte di Ancona si resta in coda per un mezzo in panne. Sono lunghissime le code anche per un incidente tra Pesaro e Rimini Nord. Per fare i 40 km tra Pesaro e Rimini ci si mettono 2 ore. Tra Toscana ed Emilia il traffico sull'Autosole in direzione di Milano. In Veneto 2 diversi incidenti. Si rallenta sulla 4 tra Grisignano e Padova Ovest in direzione di Venezia, in tangenziale a Mestre verso Trieste tra la 27 Venezia Belluno e Dolo Mirano per un altro incidente. Sono invece per lavori le code in A4 verso Milano tra Montebello e Soave. Noi torniamo tra mezz'ora. La Zanzara. Villaggio, buonasera! Buonasera! Come sta? Non lo so, bene, spero. Beh, che ne so, se non lo sa lei, è difficile che noi lo possiamo sapere. Leggo che è dimagrito un sacco di chili negli ultimi mesi. Cosa ha detto, scusi? Dico, ho letto da qualche parte che lei ha perso un sacco di chili negli ultimi mesi. Ho fatto, ho perso, non ho capito. Ha perso un sacco di chili. Di fili, di chili. Sì, chi gliel'ha detto? E che ne so, ho letto su un giornale che ha perso addirittura 24 kg. Mi venga al pezzo. No, non è così. No, è così, ma dico, mi dica le... 24 kg in meno di 12 mesi fa. In quanto tempo? In un anno. E come ho fatto? E che ne so, questa è una magari una cosa falsa. Ma no, improvvisi, la prego. Avrà... la cosa più semplice da dire è che non beve più manco un goccio d'alcol, non che bevesse prima, che ne so, ha fatto una dieta proteica, la dieta Dukan, che ne so, che fa no, malissimo. È difficile da immaginare, è una cosa molto imbarazzante da dirsi. Cioè, imbarazzante in che senso? Perché? Lo capirà subito. Dato che non riuscivo negli ultimi 30 anni, non sono riuscito a perdere un grammo. Sì. E sono andato in centri dietetici in tutto il mondo, anche sì, in Arizona, il famoso Canyon Ranch, dove si spendono $30,000 a settimana. Pure. Sì, è una cosa. Vabbè, insomma, ci andavano tutti gli stadi a Hollywood, quelli che tendevano a ingrassare. E io veramente ho fatto una scommessa con un mio amico, di cui non posso fare il nome, un uomo ignobile. Il quale mi ha detto: se non perdi almeno 22 kg, io ti dico la verità, ti rovino. Ha capito che a quel punto è un po' pericoloso. E io ce l'ho fatta in una notte. In una notte? Mi sono fatto tagliare una gamba. Ah, ha perso un pezzo di corpo, così. Cioè, ha capito? Ma così è facile. Che facile, sì, provi lei. Lo possono fare tutti così, basta tagliarsi. Sì, tutti. Come si chiama lei? Cruciani, Giuseppe. Cruciani, allora lei domani vada da un qualunque chirurgo, anche dilettante, anche un parrucchiere, e si faccia segare la gamba destra. Guardi, senza anestesia, hai capito? Allora, il problema è che, tutto considerato, io mi volevo anche iscrivere alle Olimpiadi, Paralimpiadi di Londra. Sarebbe stata una cosa positiva. Sì, positiva per chi? Per lei? Per lo spettacolo. Per la sua radio, pensavo che... Interviste Paolo, di questo tipo. Paolo Villaggio alle Paralimpiadi, cioè, sarebbe stata una cosa, una notizione, insomma, no? No, non è vero una cosa... Guardi, le dico la verità, con le Paralimpiadi, tutto considerato, fanno molta tristezza. sinceramente non è che sono entusiasmanti, sono la rappresentazione purtroppo di alcune disgrazie, ecco, sinceramente. Non si dovrebbero fare secondo lei, eh? Ma non si dovrebbero fare, no, non si dovrebbero fare perché sembra una specie di riconoscenza o di esaltazione della disgrazia, invece no, sinceramente non fa ridere una partita di pallacanestro con gente seduta a rotelle, è una cosa che insomma, io sinceramente non sono tanto felice, non le guardo difatti. Cioè non le guarda perché sennò che fa? Prova. Fa tristezza anche a me poi nelle mie condizioni, e capisce che so cosa vuol dire arrancare così sedie a rotelle, arti artificiali, per esempio lei sa dove si compra un arto artificiale? No assolutamente non lo so. Io le do l'indirizzo. Ma perché? Dove lei? Di Roma, però abito a Milano. Vive a Milano, allora può andare da Cova, il pasticcere. Sì. Lei gli domanda di un certo Guido. Ma sì. Insomma, adesso sinceramente mi secca. Il quale sì. Si è tagliato entrambe le gambe in pure. Una dieta. Sì. In una dieta, si fa per dire, ha capito che dieta. E ha un artigiano che le fa le gambe su misura. Addirittura? Sì. Lei è mutuato, no? Io sono mutuato, sì. Sì, niente, la mutua non gliene frega un cazzo di gambe tagliate così, allora lei deve purtroppo pagare. Guadagna poco, no? Beh no, guadagna un sacco di soldi. Allora, stia a sentire, è vero che guadagna un sacco di soldi, è una vanteria stupida. No, un sacco di soldi guardi, rispetto alla media. Rispetto alla media. Vabbè, allora, lei ha detto un sacco di soldi prima. Un sacco di soldi, anche... nel senso, un sacco di soldi rispetto alla media. Allora, io le chiedo, sinceramente, allora, vista la mia condizione... Che le fanno schifo i soldi, Villaggio? Vista la mia condizione, io non ho trovato ancora denaro per quest'arto artificiale. Sì. Allora, lei, sinceramente, così, alla cieca, le do il mio numero di conto corrente? Me lo dia. Guardi, ne faccia un uso corretto, mica che poi va a prelevare lei per la sua gamba, perché lei si taglia la gamba o no poi? Beh, se voglio dimagrire, ma io guardi che sono abbastanza asciutto, perché non ho fatto notti brave come lei, non sono stato... No, che notti brave, ma scherza. Ma lei per anni ha fatto un sacco di notti brave, le vedevo tutte. La vedevo in un sacco... Ma come no? L'ho visto in un sacco di locali di Roma, Villaggio. Ma non c'entra, ma non è quello, uno può fare notti brave... veramente sodomizzare anche delle pecore in Sardegna, può fare un sacco di cose, però quello che conta è la cofana. La cofana di Paiata, sa quelle stronzate? Ah, è quella la cosa là. Spaghetti, vermicelli alla griscia. Lei aveva questo problema grave. Comune, cioè mangiava un sacco, Villaggio, questa era la realtà. Mangiava un sacco. E come quanto pesa? Io peso molto poco, beh, adesso le devo dare le proporzioni? Le misure? Sì. Le misure? 1,80 e peso 71. Beh, allora niente, non faccia stronzate, lasci perdere. La gamba. Rimanga così. Faccia una cosa. Sì. Se vuole lei un uomo piacente oppure un cesso? No, abbastanza piacente direi. Così dicono. Molto. Così allora, dicono. No, molto lo dici tu. Allora faccia una cosa. Lei sa fare lo spogliarello come l'ha fatto il Principe Harry? Assolutamente no. Allora è fattuto. Beh, scusa, lo stavo offrendo veramente di fare lo spogliarello in un locale di Amsterdam, dove indubbiamente sei veramente dotato, io dubito peraltro. Beh, adesso questo, scusa. Beh, non lo so, insomma, adesso è troppo alto. Lei è dotato? Leggero. Lei è dotato? No, io ho fatto una protesi. Pure quella, pure là. Pure là, caro amico, io non mica... Lei è un giovanotto, no? Allora, lei faccia così. Sì. Mi mandi per favore, o se non vuole andare ad Amsterdam, parte del suo stipendio a questo conto corrente. Me lo dica, poi me lo dà via mail o me lo vuole dare in diretta? Me lo dia in diretta. Io lo do in diretta, tanto so che lei non manderà un cazzo, sarà terribile. Guardi, voglio il suo nome e il suo indirizzo, perché sinceramente io la faccio perseguitare, non le dico il nome. Sì. Quindi è un ricatto in diretta. Benissimo. Lei mi deve mandare... Quanto? Poca roba. Poca? Quanto ci vuole? 1.000, 2.000? 30.000 euro. 30.000 poca roba. 30.000 sono un sacco di soldi. Sono quelli che Grillo... Sono quelli allora, che Grillo ha preso... No, quelli sono 30.000. Allora prende per il culo. Ma come? 30.000 euro lei... Cioè di ah, faccio una colletta lì in studio con i suoi collaboratori. Vabbè, poi mi dai il numero. Con i fonici. Ma i fonici guadagnano poco meno di me. Allora, poco meno di me. Va bene così. Allora io vengo intervistato gratis da una radio che non conosco. Come non conosco? Da un uomo che si descrive per l'uomo alto 81. Ma me l'ha chiesto lei. 1,90. Ma me l'ha chiesto lei. 1,80, che è 1,90? 1,80. 1,80, ecco. Allora io devo fare questa chiacchierata del tutto superflua. La mia età, poi oltretutto. Va bene, ha ragione, la pagheremo, però non 30.000, non 30.000. No, la pagheremo. Io chiedo solo la pietà di avere 30.000 euro per la protesi. 30.000 euro, lei me li manda in contanti. Benissimo, va bene. Una busta. Va bene, all'indirizzo. Lei ha il mio numero di telefono, lei telefona, dice quando si può venire lei direttamente. Io sinceramente la conoscerei molto volentieri e misurerei anche quelle misure che lei dice. No, di io non ho detto niente. Sulle misure non ho detto niente. No, ha fatto capire che. Ma che ho fatto capire? Niente. Senta, Villaggio, voglio capire una cosa invece. Ma. Fammi salutare Villaggio. Sì, salutalo. Sono Parenzo Villaggio, ciao. Parenzo non ti conosce tanto. Sì. Sandro? No, David. David Parenzo. Ma è parente di Parenzo? No, no, non è parente. È parente di parenti? Ci siamo visti alla stazione del Club Eurostar di Roma e avevi questo meraviglioso caftano bianco. Ma è sempre così. No, non si chiama caftano, scusami, è marocchino, si chiama Gandora. Ah, scusa, è vero. Caftano è quello che si mette sopra ed è in genere libico, egiziano. Vabbè, comunque ci siamo visti lì e io ti volevo Gandora. Chiedere... Gandora. Sì, vai. Però scusa Villaggio, io, ma veramente lei non guarda le Paralimpiadi che le fanno un po' ribrezzo, diciamo. No, non le guardo perché sinceramente, guardi, mi sembra un pochettino... Uno show dell'orrore. Fastidioso, non è molto divertente. Dai. Poi c'è una, addirittura mi ha stupito, scusi. Sì. C'è una che fa i 200 metri, cioè non i 100 che va a diritta, sì. I 200 metri con la curva di una donna, una ragazza sì. Giovane, cieca. Vabbè. L'ha letto, no? Io l'ho visto proprio in televisione. È una che si allena con due persone a fianco che le dicono vai avanti di dritta, comincia a girare. Lei capisce che tanto vale correre col bastone bianco. Io non so. Non è crudeltà, mi sembra che sia crudeltà esagerare la finta pietà perché sono basate sull'ipocrisia assolutamente nuova di sfondo cattolico, cioè fingere. Vede. Cioè non è un bello spettacolo, dice, personaggini, sì? Sembrano Olimpiadi organizzati da dei amici, se si ricorda. Sì, come no, beh certo. Ecco, ha capito, c'è la tendenza adesso, soprattutto i nostri governanti, le devo confessare, non hanno più la simpatia di questi, quelli lì sembravano d'accordo dei giocatori di tavolette, sa quelli che... un tempo sotto i sottopassaggi delle ferrovie c'erano i tavolettari, no? Sì, sì. I quali adesso sono quasi scomparsi, però a Napoli ci sono ancora, e sa perché? Perché hanno la passione, cioè non lo fanno per denaro, lo fanno perché esibiscono un'abilità, una manualità straordinaria. E invece? Invece adesso sinceramente mi sembra che i nostri governanti attuali siano opachi, sono un po' come... Le donne sono tutte buone come la maestrina. Si ricorda la maestrina dalla Penna Rossa? Come no? Come no? E Monti cosa le ricorda? La Monti? Piccola vedetta lombarda, sì, se la ricorda quello lì. E Monti cosa le ricorda? Chi, chi le ricorda Monti? Che le ricorda? Monti. Monti, sinceramente, mi ricorda, è uguale a un professore di economia che viene tutte le mattine al mercato di Via Chiana a Roma, che ha la stessa, insomma è molto, direi provoca una leggera, si può dire che può addormentare. Eccoci qui la Zanzara, Giuseppe Cruciani qui in studio a Milano, in diretta invece da Reggio Emilia alla festa del Partito Democratico. Il signor David Parenzo che fra poco avrà con sé il segretario della CISL Raffaele Bonanni, spero che non l'hai fatto scappare Parenzo. No, abbiamo bevuto un caffè, c'era anche Dario Di Vico del Corriere. Ma chi se ne frega? Vabbè, allora? Ma è la cronaca di quello che succede comunque. Intanto con noi c'è sempre Paolo Villaggio. Ecco, io Villaggio. Ma lei è mai stato a una festa dell'Unità, Villaggio? Sì, ci vado, ci sono stato una decina di volte. Sì. Perché io ho militato per anni a sinistra del Partito Comunista Cinese, quindi ero una specie di belva umana da battaglia. Queste belve umane avevano una caratteristica, sì, nel corteggiare le donne le aggredivano, fasciste, borghesi, ancora pochi mesi, fanculo, Mao, Mirko Mao. Beh, io ed Andrea Buonanima, sì, eravamo, come ho detto, in una posizione ultranzista, sì, estremista, sì, estremista, scopato mai. Mai. Mai. Ma mai, fino mai. A 32 anni è stata una cosa. Lei forse mi può capire perché ha detto che è impotente completamente. Totalmente, totalmente impotente. Così mi ha fatto capire, io sì, assolutamente, è vero. La voce, una certa esperienza. È vero, quindi è vero. Lei può capire esattamente come siamo vissuti. Quando gli altri andavano a scopare, mentre sì, noi si stava dicendo Mao, Mao, ad un certo momento si trovava soli come bestie. E si doveva andare purtroppo a vedere in cineteca, una cineteca ripugnante, sì, c'era un odore, anzi il presentatore poi sembrava avesse appena tracannato una tazza di merda, una cosa, sì, un alito. Vabbè, morale, per 5 anni, sì, tutti i sabati pomeriggio siamo stati condannati, nella sua condizione che lei ben conosce, assolutamente, sta vivendo ancora, a vedere la corazzata Potionkin in mezzo. Pure. Ma come. Senta, pure, ma io era il cavallo di battaglia di quello dell'alito merdoso, e poi Die Sire di Carlo Teodoro Dreyer, abbiamo visto una rassegna di film cecoslovacco. Ma oggi Villaggio per chi vota oggi? Se prima era come di sinistra, scusa? Oggi Villaggio per chi vota? Per chi vota? Ma scusi, c'è un unico modo per votare, per il futuro. Cioè? Ma secondo lei vuole che voti con la Lega? Che, no, non lo so, Bersani? Bersani? Come? Bersani? Ma cosa si perde Bersani? Io non voto per un uomo. Voi per esempio impotenti, per chi, a chi chiedete aiuto per esempio? Ai medici quando uno alla è impotente. Alla fecondazione artificiale, lei è d'accordo, no? Sì, assolutamente, sì. Ecco, lei ha mai avuto un unico rapporto anche brevissimo? Con una pecora, voglio dire. No, con quella no, però con una donna sì, brevissimo, brevissimo. Poi sa, gli impotenti. Chi era questa che voglio contattarla per sapere. Purtroppo gli impotenti, sa, hanno un problema e dura pochissimo. Ma lei è sposato? Beh, diciamo, adesso non entriamo bella in questi domanda, dettagli. Bravo, in questi bella. Dettagli. C'è una voce femminile lì vicina, me la passa? Ecco, Parenzo è la voce. Ma come femminile. Femminile? Che dice? Parenzo la è la voce femminile, Parenzo. Vabbè, lo stesso, come ha una voce molto femminile. Ma mi dica, signorina Parenzo, no, secondo scusi, lei che conosce bene vita, morte, miracoli di questo... Signore, sì, di questo cialtrone, sì, sì. Ha avuto qualche rapporto fuggevole con lei, per esempio? Ha tentato? Guardi, purtroppo la devo, come dire... Le devo dare una grande delusione, perché il signor Cruciani... Eccolo là. Il numero e la quantità... Il signor... Cruciani, il signor Cruciani, sì. Sì, era anche un urologo molto famoso. Beh, mio zio era l'urologo famoso. So però che... è vivo. Sì, è certo che è vivo, ma lo so. Conosci? È mio zio l'urologo. Ma che carino che è Cruciani. So che l'ha operata, non so dove, non ho chiesto. No, eh. No, lui non è un chirurgo, non l'ha mai operato. Ma come no, è un chirurgo, sì. No, sì, ma però non l'ha operato. Lui. L'ha visitata. Chi se ne frega? Sì, visitata perché lui era... Amico di Filini. Di Filini, certo, come no, di Reder. E certo. Giocavano a scacchi. Di Gigi Reder. E lui è un uomo veramente delizioso, molto intelligente. Al contrario di me. Grande medico. Al contrario di me, io, lui era un grande medico, sono un cialtrone. Che devo fare? Detto, scusa? Io sono un cialtrone, lui invece è un grande medico. Questo lo dico io, è sul serio. Lui, io faccio un lavoro da cialtrone. Mio zio è stato. Ancora. Ma no, dai, non prendere in giro adesso. Io voglio capire una cosa. Ma pensa solo ai minatori di Sulcis. Adesso tu voglio vedere se i minatori di Sulcis si impadronissero della tua trasmissione. Ma per carità, questo Parenzo lo vorrebbe. Bellissimo. Parenzo lo vorrebbe, io no. Ma per carità, bellissimo. Per carità. Ma insomma, lei è un sovversivo, un uomo di destra. Ma assolutamente lei, no. Lei è un reazionario. Dovrebbe scendere in miniera. E che fare? Vabbè, fa la trasmissione in diretta. Ma assolutamente. Bellissimo. Vabbè, a me allora, in questo momento io faccio il tifo. Come? Allora come? Ma allora vergogniamoci. Ma che vergogna. C'è gente che muore di fame, lo sa che questi qui sì. non si rendono conto che la miniera lì produce un carbone che costa 40 volte quello che producono i giapponesi. Sì. Ecco, allora, questi chiedono aiuto a tutti. Allora lei dovrebbe, gentilmente, anche sì. nudo, anche se, insomma, nudo lei non ha neppure il pelo, non mi sembra. Beh, poco. Me l'ha detto Parenzo, eh? Sì, sì. Allora, lei scende in miniera, nudo, con la radio, sì. magari i tecnici li tiene fuori, un lungo filo, sì. e fa parlare le voci dei minatori di Sulci. Ma non ci penso nemmeno lontanamente. Bravo. Non ci penso nemmeno. Perché? Perché no, a me piace Giannino, si figuri un po'. Io, sai chi mi piace in politica? A me Giannino. A lei piace Giannino? Chi è Giannino? Oscar Giannino, manco lo conosce, stiamo messi male. Ma chi è sto Giannino? Non lo conosce Giannino. Vabbè, allora facciamo una carrellata di politici. Grillo, ha sentito la storia delle fatture di Grillo? Adesso è stata smentita. Grillo se l'è presa con Benigni, poi alcuni hanno detto che era stato pagato in nero, poi smentito. Le piace Grillo, Villaggio? Che è genovese sì, come lei? Mi piace, lo conosco, è battagliero. Ma lo voterete? È come un tribuno della plebe. Ma voglio dire, ma voi vi occupate però di queste... La cosa brutta di questa politica, beh, sì. posso dire una cosa? Amica, faccio politico io. E lì, no, di politica. Allora, Monti e il suo gruppo di amici, se non è fine della Penna Rossa, parlano solo ed esclusivamente di spread, che fantozzi spread, che sia il disprezzo che hanno i tedeschi per gli italiani. No, parlano solo da 7 mesi di soldi. Il Duca Conte. I titoli di spread che aumenta. Io sinceramente trovo che non si occupano veramente di un problema fondamentale che riguarda soprattutto il futuro, i giovani. Cioè, e qual è? Il problema è parlare di come poi si manterrà questa posizione di privilegio contro Colossi. Non si pensa assolutamente che la Cina ci sta facendo fuori, l'India anche, anche il Brasile. Insomma, sembra un luogo comune. Noi ci occupiamo invece delle fatture di Grillo, di quello lì che ha rubato, che si è sputtanato, di Berlusconi. Ah, torna Berlusconi, che ha detto... Ha sentito che torna? Com'è? Vuole tornare in politica, che dice lei? Ma che me frega a me, voglio dire, a me interesserebbe, beh, a parte che Berlusconi è un uomo geniale per quello che ha fatto e via dicendo, partito da zero, lasciamo perdere. Ma è stato e sempre sputtanato questo scopa che ha esagerato. Invece dovremmo occuparci soprattutto della felicità dei nostri figli e nipoti. Noi andiamo incontro a una catastrofe. Da un punto di vista, per esempio, climatico, adesso siamo in pieno tropico. In pieno tropico. Si rende conto che ci sono dei venti e degli eventi in Italia che fanno paura al caldo. L'anno prossimo sono previsti 39 gradi a Natale. Io non ho ancora capito chi vota Grillo, chi vuole votare Grillo. Grillo, Villaggio. Ma che gliene frega? Ma mi interessa, Io penso interessa. Che questa gente non hanno assolutamente il senso dell'affetto per il... Cioè dovrebbero pensare, come i grandi del passato... Sì. La felicità mentre l'America, che dice è un paese felice da sempre, alla è un paese felicità. Disperato perché è un paese senza fede, si crede solo nella senta vita. Ma anche il tema dei matrimoni gay l'annoia? Come, scusa? Anche il tema dei matrimoni omosessuali l'annoia? Ma no, quello no. Vede, lei poi dice omosessuale mi annoia, perché lei si annoia. Voglio sapere che lei, che indubbiamente ha, data la sua assoluta impotenza, l'impossibilità di coiti, di cose così, è una sua, direi, debolezza, una sua, non è che l'ha deciso lei di nascere omosessuale. Lei ma io non sono omosessuale, ma io non sono omosessuale. Allora, l'ha deciso lei, ne fa una colpa. Allora, alla Chiesa, a Toledo, un certo Torquemada, che era mio compagno di banco, oltretutto. Sì, pure. Li bruciava vivi. Perché? Perché non devono... Ma dimmi tu, ma è possibile? Ma lei ha avuto dei cani? Io no, in mai. Casa? Mai. Ha visto che naturalmente i cani hanno rapporti tra maschi. Sì. Lei ha avuto rapporti con maschi, indubbiamente sì. Sì. Allora, mi sembra che tutto considerato sia abbastanza demenziale pensare solo a l'euro, salvare l'euro, lo spread, insomma mi sembra dire, signori, fra 20 anni saremo, saremo come 18 cani. Miliardi, adesso siamo 6, quando sono nato io c'era 1,5 miliardi di persone, allora nessuno parla del sovraffollamento, delle carceri. Vabbè, questo cosa vuole che mi dica, mi dica una cosa sulla Bindi che è contraria. Quindi, la che mi dica per chi voto le piace Grillo. A me piacerebbe veramente sì. un vero un profeta, vero? Veramente un profeta, che sì. pensa veramente alla felicità. Mi dica la domanda che mi voleva fare al finale. La Bindi, quando parla, la Bindi quando parla, che effetto le fa? Ma mi fa una domanda stupida. Perché? Che effetto vuole che mi che faccia? Che ne so, la Bindi quando parla delle... Ma cosa vuole che le dica? Ha detto che non ha rinunciato al sesso. Ha, ha detto che ha rinunciato al sesso, la Bindi. Ha detto? Che ha rinunciato al sesso. Ma cosa dovrei, sorridere? Ma che ne so... Ma come tutte le van spettacolo, andiamo, la Bindi. Ma l'ha detto lei, mica l'ho detto io. Io? No, lei, la Bindi l'ha detto. Ha detto che è stato un grande sacrificio rinunciare e al allora? Sesso. È così, ma siccome parla vabbè, sempre... Ma cosa, dove vuole arrivare? A farmi dire? No, a farmi dire nulla, non voglio ma, dire... Ma no, invece sì, purtroppo, voleva arrivare a dire la solita battuta da comico da buon spettacolo, che la Bindi sembra un uomo che... Ma assolutamente no. Ma vabbè, andiamo. Ma assolutamente no. Abbia pietà di me. No, ho grande pietà. Ma che grande pietà? Prima mi ha detto, prendendomi il culo, che non vuole... mandarmi neppure 30.000 euro. Ma non ci penso nemmeno. Lei guadagna, io dicevo come guadagno bene. Indubbiamente qualche cosa guadagna. Poverato. Certo che guadagno, certo. Certo. Certo. Vieni a Milano, vieni in albergo? Vai, una suite. Ma perché? Allora, andiamo. Una suite. Villaggio. Guardi che io la sto curando da un po' di tempo, sa? Sì. Eh sì, certo, perché io voglio sapere esattamente quanto guadagna, se sessualmente è vero quello che si dice che lei purtroppo è sfornito di attrezzi fondamentali. E poi le chiedo, per pietà, guardi queste cose, sì. adesso spero che no, lei ha poco ascolto, no? Beh, pochissimo. Allora, pochissimo. Se ha pochissimo ascolto, meno male, perché altrimenti... Io spero che lei abbia il coraggio un bel momento. Sì. L'intensità sentimentale per dare una mano a un uomo. Io ho dovuto tagliare una gamba. Lo farò. Perché minacciato da un personaggio che io, se lei non mi manda quei soldi, sono costretto va bene. A scardiarle contro. Grazie. E adesso un grande ospite, sempre alla festa del Partito Democratico, a Reggio Emilia, con David Parenzo. Chi hai con te, David? Beh, qui al mio fianco c'è un grande ospite, è l'uomo del giorno, è l'uomo del momento, signor Cruciani. Ma chi? Ma chi? Le sole... Ma chi, davvero? Ma no, ma non è possibile. Buonanni, deve essere arrabbiato perché dice che una volta l'abbiamo fregato. No, non è vero, si arrabbia mai. È serenissimo e ha portato delle ricevute. Come le ricevute? Adesso te lo passo così te lo spiego lui. In esclusiva alla Zanzara parla il segretario Bonanni. Alzati in piedi, Cruciari, per cosa. No, veramente sono seduto nello studio e resto seduto. Non mi alzo pronto, per nessuno. Pronto, allora. Segretario, buonasera, come sta? Sì, senta un attimo, allora, ma Giovanni Guerisoli, segretario amministrativo anni fa della CISL, quando lei non era segretario, ribadiamolo, lei non era segretario, ci ha telefonato in diretta ieri sera e ha detto che la CISL ha pagato in nero 10 milioni di lire a Beppe Grillo. Lei cosa ha da dire su questo? Che io ho la fattura del 96, lui tra l'altro è stato molto impreciso nella comunicazione fatta con voi, ha sbagliato anno sì? e anche luogo. E voglio precisare che l'anno era 96, sì. 1996, all'assemblea organizzativa della CISL, sì. e il luogo era Rimini. E non Numana. E non Numana. Ma lei è sicuro che Numana. Successivamente, nel 99, anni dopo, la CISL non ha organizzato qualcos'altro con Beppe Grillo? No, noi abbiamo avuto una sola volta sì. Una prestazione di Grillo. Sì. Per i nostri meeting è stato sì. nel 96. E perché si è sbagliato così, cioè in maniera così clamorosa, Guerisoli? Che ne so, sono passati gli anni, la testa di, cioè il cervello di alcuni si deve demolisce. Ah, la testa ha perso e qualche chip. La vis polemica sua nei confronti di Grillo l'ha portato a dire una imprecisione. Io mi devo scusare con Grillo perché né è vero che lui ha evaso il fisco, sì. non è vero, e mi scuso con lui che uno, anche se oggi Berisone non ha nessuna responsabilità nella CIS, e né evasore fiscale la CIS, Però mi scusi, Bonanni, lei si scusa con Grillo? Consegnerò la fattura al suo collega. Sì. Quanto avete pagato? Quando abbiamo pagato? Come risulterà dalla fattura che voi senz'altro leggerete? Quant'è? 20 milioni? Quanto avete pagato all'epoca? No, sono 30 compreso l'IVA. 30 milioni compreso l'IVA dell'epoca. Compreso l'IVA, era molto alta allora. 30 milioni di lire compresa l'IVA. Senta, scusi un attimo Bonanni, però al di là della questione del posto in cui ha fatto la performance Grillo, resta però la precisione con cui si è esposto Guerisoli. Cioè Guerisoli ha detto chiaramente di avere consegnato con l'approvazione dei soldi mano. Non ha consegnato nulla lui. Lui non ha consegnato, è impazzito, no, che ha fatto? Era un altro la persona, come ho ricostruito anche io in queste ore. Sì. Era l'allora segretario organizzativo Graziano. Sì. Graziano Trerè. Graziano Trerè, che si era occupato appunto allestendo organizzativamente la iniziativa, si è occupato di tutto. E mi ha fatto avere appunto le ricevute. La fattura, naturalmente, che ce l'aveva lui negli uffici appunto della CISL. Vi abbiamo fatto fare un mazzo così stamattina negli uffici della CISL? No, noi siamo molto più efficienti delle stesse imprese private, al di là di quello che dice, e quindi abbiamo trovato subito la fattura. Beh, sarebbe stato clamoroso. Noi siamo ben organizzati. Sarebbe stato clamoroso se un sindacato avesse pagato in nero un artista per una performance, addirittura consegnandogli dei soldi in mano. Sarebbe la stato... La CISL no. Ma allora prende... La battaglia dell'evasione fiscale ha fatto una battaglia appunto forte dagli anni 80. Scusi un attimo, Bonanni. Scusi un attimo. Dagli anni 80 a oggi che la CISL ha fatto una battaglia sull'evasione fiscale. Scusi un attimo, però al di là di questo, io le chiedo: ma allora prenderete dei provvedimenti anche nei confronti di Guerisoli? Perché Grillo ha dichiarato. No, provvedimenti no, perché lui non è. No, ma una querela, carica. Una querela, un qualcosa del genere. No, una querela no. Ha sputtanato anche la CISL in parte. Ma no, l'ho riparato subito io. Non mi sento sputtanato come CISL perché ho riparato subito, faccio vedere la fattura, dico quello che penso e fino a lì. No? Mi sembra eccessivo che debba denunciare Guerisoli. No, è che siccome Grillo ha annunciato querela nei confronti di Guerisoli... Sarà più cauto la prossima volta. La querela non è che la può fare una CISL, Grillo, la può fare solamente a Guerisoli. Ma poi alla fine credo neanche... No, perché la sanzione su Guerisoli, se è vero quello che sto dicendo io, sta nel fatto che le sue parole... sono errate e quindi l'agenda la prenderà sta vicenda per quella che è. Ma è impazzito Guerisoli? Che ha fatto? Gli è partito qualche... Gli è partita la brocca? No, lo so. Probabilmente un eccesso di vis polemica per una cosa che non condivide. Lo perdona lei o no? Ma io non ne perdono né accuso nessuno. Faccia il Papa, perdona, il confessore, come nel confessionale. No. Va bene, grazie. Ti saluto. Grazie. È scappato subito? David, dove sei? Sei scappato, gli hai dato il telefono e è andato via. Che ha fatto? È impazzito. 800 24 00 24. Qualcuno ci spinge, come leggo, a richiamare Guerisoli. Forse lo stesso Beppe Grillo che ha ritwittato un tweet, così si dice in gergo, insomma. Ha detto richiamate Guerisoli dopo la smentita della CISL, la smentita di Bonanni, le differenze sulle date, dei soldi. Che ieri ha detto, dunque tutto sembra non combaciare, magari conferma le cose Guerisoli. Ci proveremo più avanti, restate con noi. Sergio da Torino, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera. Sai, guarda, io chiamavo in veste di Grillino, o quantomeno per spezzare una lancia a favore di Beppe Grillo. Poi ho chiamato in ritardo perché ho scoperto che alla fine non era in nero. Comunque, io volevo dire che la notizia non doveva essere i 10 milioni in nero che si è preso, quindi 3.000 euro di tasse non pagate. La vera notizia, se uno vuole fare i soldi in tasca a Grillo, sono i soldi del rimborso pubblico ai partiti che Beppe Grillo ha rifiutato, nell'ordine di grandezza di centinaia di migliaia di euro. Quindi se si vuole parlare di Grillo e i soldi dello Stato, la notizia è questa. Però scusi, abbia pazienza Sergio, non è che quando uno parla di una cosa, quando uno interviene in una trasmissione e parla di una vicenda, ho dato 10 milioni di lire, di euro, 10 milioni di lire a Grillo in nero, perché dobbiamo parlare di altro? Parliamo di questo, vero, non ma vero, eccetera. Ma completezza, che c'entra il finanziamento pubblico? Questa è una vicenda vecchia, tra l'altro, non c'entra nulla il finanziamento pubblico. Stiamo parlando di questo e non abbiamo dato giudizi noi, abbiamo ascoltato una cosa, punto e basta. Mi sembra strano che non si possa nemmeno parlare di questo, che viene aggredito, quando Grillo aggredisce tutti i giorni con le sue parole, va benissimo, è legittimo, però non si può nemmeno fare una piccola critica che viene aggredito. C'è un ricatto nei confronti di Grillo, ma lui le spara ogni giorno, adesso non può arrivare uno a dire una cosa, cioè, ma di che parliamo? Davide, ci sei, sì o no? Ma certo che ci hanno salutato Bonanni con questa esclusiva che ci ha voluto regalare. Sì. E che dire a questo grillino? Cioè, l'oggetto della discussione è stato tirato fuori da questa persona che oggi è stata smentita da Bonanni con questo documento di cui abbiamo parlato poco fa. Fine, ma voglio dire, di cosa? Non è che si può parlare delle battaglie del Grillo ogni giorno, anche perché ne parla lui. Poi non si fa intervistare, c'è un uomo che fa il monologo, non il dialogo. Un attimo solo, Gaetano da Napoli, buonasera. Ma chi è Gaetano? Gaetano, dica, dica. Io sono convinto, per esempio, che il sindacalista i soldi gli aveva dati, ma non ha nessuna prova, quindi si prenderà anche una denuncia per Caruso. Infatti già se l'è presa la denuncia da Grillo. È perché lui non ha prove, gliel'ho dati quando, dove, a che ora, i testimoni, e quindi è uno che... Ma c'è un altro di questi pseudo grillini o similtali che dice, ancora insiste, a questo punto credo sia opportuno Grillo quereli anche ma voi. Ma quelli esistono perché... Ma di che parliamo? Non insistiamo su nulla. Che Grillo Gaetano, stia tranquillo un attimo, noi non insistiamo su nulla, caro signor Papillo, come si chiama questo che ci scrive, non insistiamo per nulla, abbiamo intervistato Bonanni che ha smentito tutti, ma che vuoi di più, che volete di più di questo, dobbiamo richiamare quelli soli, ma non è che ci facciamo comandare dagli altri noi facciamo quello che ci pare. Ma che carino che è Cruciani. Siamo qui, la Zanzara, 1916, 800 24 00 24, sempre con David Parenzo, in diretta dalla festa del Partito Democratico a Reggio Emilia. Dopo il signor Bonanni, chi sì, ha il là accanto? Subito una notizia, eh? Sì, dimmi. Allora, Reggio Emilia, festa del PD, la notizia è che i fascisti hanno fatto piovere. Ma chi? Ma cosa? Sì, piove. Ma anche qui fascisti. Piove, è normale, sono non stati... è strano, è fino no, sono stati, ho parlato con Bersani, sono stati i fascisti, sono stati a far piovere qui. Adesso te lo faccio, ah, te lo dimostro. I fascisti, sì, i fascisti. Buonasera, come sta? Lei è un grande sostenitore del ministro Fornero, mi hanno detto, è felicissimo lei. Che l'ha detto? Lei delle riforme. No. Ottimo. Per proprio no. Ecco, allora avete sentito che qui al PD sono tutti felici per la Fornero. Ma non è vero, non ho nemmeno invitata alla festa la Fornero. L'avete appena... No, perché mistifichi? Perché mistifichi? No, ma vai a chiedere a quel militante... Dai microfoni della Confindustria. Che me la vai chiedere, a chiedere. Aspetta che torno dal signor Milano. Che lei, è un, lei si chiama... Io abito a Modena. A Modena. Carpi. Bellissimo, grande antifascista. A tal dico. Glielo dica a Cruciani. Ci sono dei pompatori. Dei pompatori. Che vuol dire? Chi sono i pompatori? Cosa dice? Chi sono i pompatori? Ma lei di una volgarità. Ma chi sarebbero i pompatori? I pompatori, amico mio. No, ma passami questo signore, passamelo. Aspetta un attimo, le passo solo Cruciani, posso? No, non so neanche. No, passamelo. Aspetta, le vuole parlare comunque. No, no. Sì? Scusi, pronto? Ma a Carpi chi sono i pompatori? I pompatori sono i chiamatori. Ah, i chiamatori, ma lei è vergogna. Scusi, ma non è che esistono solo a Carpi? Cioè lei mi sta dicendo che siete specializzati in questa cosa? Vabbè, adesso però questo era un militante. Buonasera. Ma questi buonasera, sono i militanti chiama. Del Partito Democratico che parlano in questo modo. Ma no, ma è un avventore. Ma che c'è? Ma vedi che mistifichi. Buonasera, ecco, ci siamo arrivati. Ma che dicono, ma lei chi è? Scusi. Aspetta che entro un attimo qui. Sì. Ecco la Zanzara. Passami un fan della... Aspetta che ti passo subito. Eccolo qua, faccio subito un salve. In diretta alla Zanzara un militare, un... Aspetta, c'è Cruciani che la vuole salutare. Ciao Cruciani. Buonasera, come sta? Come sta? Sto bene. Perché avete invitato, non avete invitato la FIOM, avete invitato invece Sallusti? Perché abbiamo invitato i tre segretari, CGIL e CISLUI. Ho capito, però credo che sia sufficiente. Ma lei mi parla come un dirigente, mi parla come un militante. Guarda, io sto sparecchiando. Sta sparecchiando. Ma lei che fa alla festa del PD? Che fa? Il volontario? Sto sparecchiando. È volontario? Sì, volontario. Ma esistono ancora i volontari? Come no? Ma lei per chi voterà? Siamo più di 7.000. Per chi voterà? Per Bersani o per Letta? Sì, per Letta, per Bersani o per Renzi? Ah, per Bersani certamente. Per Bersani, non c'è dubbio. Lì alla festa del PD tutti per Bersani votate. Chi l'ha detto? Beh. Caro amico volontario, mi sembra che non c'è dubbio, eh. No, ma non è vero, no, non è vero. Non è vero. Comunque, siamo ampiamente democratici. Avete invitato Sallusti, il direttore del giornale. È piaciuto Sallusti questo invito a Sallusti? Guarda, non ho sentito perché non ero di turno e quindi non ho sentito. Vabbè, si dice sempre così. No, non ero di turno. Vabbè, ma le è piaciuto questo invito a Sallusti, il direttore del giornale? Forse si poteva fare anche a meno. Se ne poteva fare a meno. E la Fornero, perché non l'avete invitata, la signora Fornero? Non lo so, ascolta, io non ho dimestichezza sull'organizzazione dei dibattiti ed altro. Lei fa solo fa il volontario. Faccio solo il volontario. Fa solo il volontario. Io l'abbraccio fortissimo. I titoli del TG3. Bene. Le piace il TG3? Molto. Molto, beh, te pareva. TG3, titoli, grazie. Ciao. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Dura nota del Colle dopo la pubblicazione su Panorama di ricostruzioni sul presunto contenuto dei colloqui Napolitano-Mancino. Il Quirinale non è ricattabile. Il servizio del settimanale non riporta le intercettazioni delle conversazioni, ma ipotesi sul loro contenuto e un collage di indiscrezioni e commenti di giornali. Solidarietà Napolitano a tutto il mondo politico, con l'eccezione di Di Pietro, ma il PDL torna a chiedere la riforma della legge sulle intercettazioni. Rinviato il Consiglio dei Ministri di domani, salta il decreto sanità, troppi dubbi degli altri ministri sul decreto Balduzzi, rinvia a settembre. Moody's vede nero, crisi europea può contagiare tutti, anche i paesi emergenti, crescita italiana al ribasso, bene le aste dei titoli spagnoli, dei titoli italiani, spiraglio del governo sulla vertenza Carbosulcis, non è detto che la miniera chiuda a dicembre, arriva a Roma anche la protesta dell'Alcoa. Se vinciamo vogliamo la riforma sanitaria di Barack Obama, questa è la sfida del candidato alla vicepresidenza del Partito Repubblicano. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Ferrara, che cazzo c'entra Monti con Obama? Ieri sera è in onda. Monti è al governo da un anno e bisogna aspettare. Da meno aspettare. Di un anno, Ferrara. Lei improvvisamente non sa far più di conto. Vabbè, insomma, da novembre. Un anno meno due mesi. Comunque, sono 8 mesi. Comunque Monti è al governo da circa un anno e ha fatto, secondo me, molto bene e ovviamente deve... Ma che cazzo c'entra Monti con coso? Ma che era un espediente per dire che di fronte alla crisi mondiale, globalizzazione, le varie menate, direbbe Tremonti, alla fine... Ma io non ho niente in contrario se vince Obama, tanto viene spesso Guantanamo concesso. Resta in piedi. Poi risponde in diretta al cellulare, sentite. Beh, lui fa il giornalista, grandissimo giornalista, dai. Io sono una spia, un politico. Io mi chiedo una cosa, perché nella campagna, adesso siamo ancora agli inizi, no, agli inizi no, manca poco, però risponde al telefono. Perché nella campagna elettorale americana non è ancora entrato? Zucconi, sempre in trasmissione sulla culona, però non la Merkel, Michelle Obama. Quando hanno presentato la moglie di Romney, ma è pure la Barbie, tutta bionda, cosa hanno presentato? L'icona della donna bianca, bionda, la signora che prende il posto di quella, posso citare un autore a lei caro, di quella culona della Michelle Obama, questa donnona nera che io molti la trovo non una delle donne, io la trovo una delle donne più belle del mondo. Anche secondo me è bellissima e neanche lei si può esimere da questi commenti maschilisti, questo mi delude, Zucconi, da parte sua. Mi ho mai detto molto. Che le dimensioni del sedere sono negative? È un commento maschilista. Ho mai detto che le dimensioni del sedere sono negative? Beh, ha ragione Zucconi, non si può dare della culona alla moglie di Obama, Michelle Obama. Qual è? È un commento negativo, un commento maschilista, è un commento, no? Un commento troppo salace, una presa in giro nei confronti delle donne, un commento sessista. Ma di che parliamo? Su, di cosa parliamo? Ha ragione Zucconi. Magari la sensibilità femminile. E chi se ne frega? E chi se ne frega? E chi se ne frega? Tutto così, chi se ne frega di quello del Sulci non me ne frega e quello, cioè il mondo. Guarda che ti metto diagnosi, La complessità, sì, la complessità, la complessità delle cose, sei tronchon. Senti, scusa, se uno dice culona una, lo dice anche... non è detto che lo dica in maniera negativa, cioè, non capisco. Bisogna anche capire, possendo con te, l'altro punto di vista, cioè la sensibilità. Vabbè, io capisco e vado avanti e me ne fotto, su. Io però qui ho, buonasera signore. Ma chi è? Intanto buona cena. Sì. Buona cena, sono qui alla festa del PD, salve. Volevo, voi siete militanti del PD, no? Sostenitori del PD, immagino, no? Lei è un sostenitore del ministro Fornero, mi hanno magari detto. Come magari? Io sono che spendi i soldi. Come? Sono uno che spende i soldi. Le piace la Fornero, no? Sì, capisco. Ecco, hai visto? E qui c'è un consenso praticamente unanime. No, veramente non è vero, non è così. Praticamente unanime, praticamente grandi, sono delle grandi inchieste. Ma delle grandi inchieste, fatti dire paese. Per chi voteranno, per Bersani o per Renzi, perché secondo me votano tutti per Bersani. Continuiamo. Signora, buonasera. Alle primarie lei voterà per Bersani o per il signor Renzi? Per nessuno. Come? Per nessuno. Come per nessuno? Per nessuno. Ma lei vota qui solo per mangiare? Sì. Vabbè, allora voterà per Bersani, ha detto. Ma non è vero, ha detto che non gliene frega niente, è venuta lì solo per mangiare. No, ma perché, va bene, sentiamo Roberto da Cagliari intanto. Falsi la realtà. Roberto da Cagliari, buonasera. Buonasera a lei. Come sta? Io sto molto molto male, lei come sta? Beh, io bene, insomma, me la cavo. Ah, bene, sì. Bene. Ah, è bravissimo lei parlare male dei minatori, io me ne ma posso. No. Ne convinci Cruciani, Roberto, non ho parlato male dei minatori. Vengo lì. Ma che prende l'aereo, ma la smetta. Ma io prendo l'aereo, me lo posso permettere di prendere l'aereo? E che fa? E andare da lei a aspettarlo, sono 24 ore. E che fa? L'aspetto fuori. Ma che fa? Venga a Cagliari a dirlo queste cose. Ma che fa? Ma che fa? Ma che fa? Viene a Milano, a che fa? Sotto il sole 24 ore, a che fare? A che fare? E lo porta all'Inate. Ma che porta all'Inate? Venga a Cagliari a dire quello che dice. Io vergogno di parlare così di quelle persone che sono 400 metri sottoterra, che hanno le famiglie a casa, che piangono, Roberto, che non hanno niente da mangiare. Roberto, stia tranquillo, stia calmo. Io sono tranquillo, stia calmo. Noi abbiamo una storia. Faccia una punturina, stia calmo, stia tranquillo. Io non ho parlato assolutamente male dei minatori. La punturina può venire anche a lei, stia attento. Stia calmo, Roberto. Stia attento che la punturina può venire anche a lei. Non minacci nessuno. Che lo tenga. Non minacci nessuno. Stia calmo. Io non minaccio, non è una minaccia come lo dice lei. Non la minacci nessuno. La tenga a lei, non a me. Io ho detto capito? La punturina per calmarsi. Non minacci nessuno perché non è il caso di minacciare. E allora non minacci. Io vado da lei a quattro occhi. Io e lei. E che fa? Lo dica in faccia cosa quello che ha detto. Ma io lo dicevo a Parenzo. Io lo dicevo a Parenzo. Non lo dicevo ai minatori. No, lei non ha capito. Non le foto dei minatori. No, di parlarne. Che cosa si fotte lei? Lei è un dinosauro. Stia tranquillo. Storico. Lei stia tranquillo. Io non ho detto questo. Io ho detto un'altra cosa. Lei non ha capito. Allora la rimetta. Lei è troppo invasato. La registrazione di cosa ha detto. Non si permette di parlare così del Sarpi. Lei è troppo invasato. Non sta capendo nulla di quello che è successo. Invasato. Sì, non ha capito. Lei che è matto. Roberto, stia tranquillo. Psichiatra. Io ho detto un'altra cosa, no, quello ci vorrebbe per lei. Io ho detto un'altra cosa. Per lei. Io... Che parla papera. Vabbè, io ho detto un'altra cosa, se vuole glielo spiego con calma. Ho detto un'altra cosa. Spieghi con calma che cosa ha detto. Se lei esatto. Io me ne frego niente. Chi se ne stia frega? Stia tranquillo, io ho detto. Oddio mio. Allora si sfoghi, avanti su. Con quella sedia lì, Vabbè, è tranquillo. Sì, sono tranquillo, si sfoghi, avanti no, su. No, io mi sfogo. Io mi sfogherei a parlare qui in faccia a faccia con lei se ha il coraggio di dirmi quelle cose. No, ma lei deve andare fino in fondo, lei vorrebbe picchiarmi, mi dica la verità, no, dica la verità. Lei, che mi sporco, picchiare lei. Tranquillo allora, tranquillo, se vuole. 32 kg, picchio un bambino. Lei un bambino. Lei quanto pesa, scusi? Molto di più. Quanto pesa? Molto mi dica quanto pesa. Ha bisogno di una dieta, il signor Ducan, è pronto? No, Ducan, no, Ducat, anche cazzo, si mette gatti, no Ducan. Signor Ducan? Ma che sta dicendo, Cruciani? Ma che la dieta se la faccia a lei in testa? Roberto, stia tranquillo, sto scherzando, il punto è molto semplice. Io ho detto una cosa. Gente che sta morendo. Un di fame, attimo, stia tranquillo, le spiego in due secondi. Che abbiamo un ospite, stia tranquillo un attimo, poi lei può rimanere quanto vuole. Roberto, io le dico solo questo. ne dico solo questo, molto semplicemente. Io ho detto a Parenzo, che vuole farmi ogni giorno una cosa sui minatori, per carità, ho detto ogni giorno una notizia sul Sulcis. Vabbè, stai tranquillo adesso, stai zitto. Ho detto a Parenzo che no, oddio, ho detto sotto il suolo che lottano per un posto di lavoro. Benissimo, ho detto che no. La trasmissione si occupi anche no, di questo. Io ho detto appunto, non me ne frega niente di parlare qui della vicenda del Sulcis, a meno che non succedano delle cose che mi stimolino con riferimento a quello che faccio alla Zanzara. Punto e basta. Che sia addirittura per un gesto Roberto, non ho detto, oddio. Questo è il punto. Devi stare zitto. Devi fare silenzio, Roberto. Io non ho detto me ne frego di quelli che stanno sotto. Dove c'è lei, non è la radio pubblica, ma comunque non sì, è questo il punto. Sì, pubblica è, l'ascolto io, l'ascolto in tanti, e se è pubblica, lei non può offendere. Roberto, non ho offeso nessuno, la smetta di dire questa stupidaggine, non ho offeso nessuno, ho detto me ne frego Non ho offeso nessuno, ho offeso a Parenzo. Ho detto me ne frego, sì, può darsi, ho detto me ne frego di parlarne no, qui. Me ne fotto, uguale, anzi, può darsi che abbia detto anche peggio. È diverso la cosa. Vabbè, me ne fotto, d'accordo, me ne fotto di parlarne qui, questo è il punto. Non ha detto di parlarne qui, non ha detto quello. Guarda la registrazione. Vabbè, d'accordo, allora, faccia lei. Michiché, buonasera, un attimo, resti lì. Io la reputo una persona intelligente. Non però ho detto questo. Penso che abbia le tre C, lei. Io ce le ho le tre C. Venga dai minatori a dirglielo quello che ha detto. Ma non ho detto questo, ma la finisca, Roberto, su. E glielo dica che c'è gente, 400 famiglie sono sotto 400 metri. Che stanno aspettando lo stipendio, sì. Non mangiano. Va bene, d'accordo, sono vicino a queste famiglie, a questi signori, dopodiché non ne parlo qui, è possibile. Giannino che quasi piangeva. Dottor Giannino piangeva quasi stamattina. Ma è consentito? Ma piangeva per che cosa? Scusi, per la macchina? Dice lei? No, la macchina è stato un vandalismo quello. Lasci perdere la macchina, non mi depisti. Piangeva per la situazione dei minatori, dice lei? Sì, signore, certo. E ho capito, Giannino si occupa. Giannino si occupa di queste cose. Io ho detto me ne fotto, a parte che era una. Ma una... è sbagliato. Va bene, Roberto, io ne parlo con Parenzo. La sua insistenza mi ha portato a dire quella cosa che si riferiva semplicemente al fatto che non ne volevo parlare qui. Perché non era una cosa di cui si occupa la Zanzara, appunto, non c'era nessuna offesa. Abbiamo la borsa poi con Gianfranco Micciche, leader di Grande Sud, nonché candidato alla presidenza della Regione Sicilia dopo varie peripezie, chiamiamole così, peripezie. Le zanzare di casa mia. Eccoci qui, 800 24 00 24. Parenzo, ci sei ancora? Sì? Beh, ci sono sempre. Ci sei sempre, eh? Piove perché i fascisti hanno fatto piovere sulla La festa dell'unità è con noi Gianfranco Micciche, buonasera. Perché dov'è Parenzo? Scusa. Alla festa dell'unità, sì, ah, dell'unità, beh, del PD, credo. Del PD. Ma non ci credo. Perché non ci crede? Scusa. La prova che allora c'è del campanilismo becero. Del militante del PD, Parenzo, dice lei. È militante del PD? No, è andato alla festa per lavoro. Ma io ero già preoccupato, guarda, mi ero già preoccupato quest'estate, che a un certo punto mi hanno telefonato, mi hanno detto è la Zanzara, siamo in diretta, possiamo fare la cosa, ero tutto contento. Mi ha detto dove è Parenzo? Ho detto non senta Parenzo qui con noi. Perché c'è andato lei, scusi? Perché c'è andato? Ma io che ne sapevo io? Che non c'era Parenzo, mica mi hanno avvertito prima. Con me che sapevo? Ma oddio, Parenzo, ma ora non ci sei nemmeno, dove sei ora? A Reggio Emilia, alla festa del PD, dove alle 20:30 mi collego per la 7. Ma voglio mandare un messaggio al signor Luigi Crespi che mi sta chiamando sotto il cellulare. Signor Crespi dovrebbe sapere che a quest'ora sono in diretta alla Zanzara, quindi perché cazzo mi chiama sul telefonino? Giustamente, caro Crespi, giustamente. Perché? Non lo faccio dire da Crespi. Perché consulente di Micichetti rompe le balle perché dire non chiedere ma questo, no, non chiedere quest'altro. No. Le solite cose, no, le solite questo cose. Crespi non lo farebbe mai. No, sto scherzando. Mai, ma proprio mai perché saprebbe di mettermi in difficoltà. Io voglio quelli che sono duri, che parlano chiaro, che parlano chiaro, che parlano allora, chiaro, che però parlano amici chiaro, che io le dico subito, dunque l'altra volta non si è divertito lei quando è venuto alla finta Zanzara. Ma sono questi vostri concorrenti che vanno fregato il marchio per una settimana? Bravo lasciamo perdere questo discorso. Perché allora mettiamo questo discorso. Avete denunciato o no? Ma guardi siete costituiti parte civile o no? Guardi, perché si vuole addentrare in questa cosa come dire, che mi tocca, che mi tocca perché al mi cuore. Mi sono spaventato, ho pensato che l'avessero licenziato. Quello è sempre possibile, comunque, è sempre possibile. Dopodiché ora vedo che non c'è Parenzo, cioè là, diciamoci la verità, Radio 24 c'è un momento di crisi di rapporti. Non è vero, ma assolutamente no. Cioè, come Parenzo, come no? Ma l'altra volta vanno fregati in macchina, mica è normale che uno si frega il logo di una trasmissione e la fa con altri. Bravo. Poi adesso ti hanno mandato alla festa dell'unità pur di non stare lì alla radio, e qualche problema ci deve essere. Ma guardi, lei ha centrato, guardi, ha centrato tutti i problemi in un colpo solo, cioè in 30 secondi ha detto tutto quello che c'era da dire. Io la posso anche salutare a questo punto, perché lei ha detto tutto. Chi no, veramente, l'importante è che io non mi debba preoccupare. No, non si preoccupi, comunque, preoccuparsi ora mai. Qua sto leggendo, Cruciani, qua sto leggendo nel serpentone quello sotto il telegiornale. No, che dice che i minatori fiduciosi, sì, forse devono mettere tra parentesi Salvo Cruciani, se Cruciani non si mischia. No, io dico una cosa, voglio dire solo un'ultima cosa riguardo a questa cosa dei minatori. Allora, tutti quelli che vi dicono ogni giorno io sono preoccupato per questa vicenda dei minatori, e intanto continuano a fare tranquillamente il loro lavoro, il loro mestiere, però poi fanno i compunti tutti, una cosa gravissima, eccetera. Sono la maggior parte di questi qua sono degli ipocriti. Io almeno non dico nulla. La maggior parte di queste persone qua sono tutti degli ipocriti. Sono degli ipocriti, perché in fondo se ne fottono. Anche tu, Parenzo, te ne fotti. Non ho dubbi che se quelli che spero che si preoccupino realmente e che non facciano finta, se poi come dire fossero tutti lì in miniera non c'entrerebbero, per cui tutti non ci possono andare. Ma questo però che ci siano quelli che speculano sempre non è una novità. Io voglio capire una cosa, però, amici, ma lei che cosa ha fatto? Ma come al solito lei è una sorta non sta mai fermo. Berlusconi una volta l'ha detto l'altro giorno, io non ci credo, veramente l'ha paragonata a Ibrahimovic una volta. No, al contrario. Cioè? Ho detto, ma lei prima stava in Forza Italia con Berlusconi, poi al PDL con Berlusconi, com'è che oggi sta da un'altra parte? Anche Ibrahimovic fino a ieri stava con Berlusconi, oggi sta per il San Germano e giocherà contro. Appunto, si è paragonato, si è auto... No, mi sono paragonato, ho fatto... mi sono paragonato a Ibrahimovic, voglio dire, non ho su che cosa paragonarmi a Ibrahimovic. E che ne so, la verità. È uno che lei è quello del 61 calcio della mia vita, che devo paragonare? Lei è quello del 61-0, uno dice sono l'Ibrahimovic della politica, potrebbe dire. Ibrahimovic 61 gol in una partita non l'ha fatto mai. Era l'Ibrahimovic della politica, ormai si 61-0, quando mai? Cioè è finita, tutto finito, no? Ma è tutto finito, quel periodo è tutto prima finito. Io oggi non sono più, quindi. Comunque lei ha fatto delle capriole. Prima si candidava, poi ha rinunciato e ha detto che appoggiava Musumeci. Diciamo che più che ha fatto delle capriole, diciamo che le ho tentate tutte per cercare di unire questa specie di centrodestra che c'è in Quentin-Fira, che non esiste più. Bah. E a un certo punto non ci sono riuscito, basta. Siccome noi abbiamo questo progetto sicilianista da tempo che portiamo avanti, ho provato a unificare le forze del centrodestra attorno a un progetto di questo tipo sono i cattivoni che non l'hanno capito? Tanto Berlusconi ha detto subito che appoggia Musumeci e l'ha attaccata anche. Questa è stupenda, Cruciani, questa è stupenda, sa perché? Perché? Perché ieri nella mia conferenza stampa con cui ho annunciato la mia candidatura, sì, mi hanno chiesto, sappiamo che l'ha chiamata Berlusconi, che le ha detto? E ho detto, guarda, la telefonata era veramente privata, lui non ci ha neanche tentato di portarmi indietro. Per cui non mi interessa, non è... Allora ci dica di questa telefonata. Aspetta, guardate, vi racconto questa cosa carina che si è battuta, che ho fatto a Berlusconi, che quando lui alla fine mi ha detto, ma insomma io che cosa posso fare? Io ho detto, guarda, faccio un'agenzia dicendo che lei potrebbe Michigan. E ovviamente era una battuta, una provocazione, tant'è che lui ha detto, vabbè, ciao, arrivederci, anche chiuso. E quindi oggi invece tutti i pigliellini siciliani si sono affrettati a dire a Berlusconi, per carità, faccia l'agenzia che votiamo Musumeci, perché se no la gente pensa che lei ha dato ragione a Michiché, che potrebbe Michiché, perché non sono granché, diciamoci la verità. Chi non sono granché? Questi del PDL, come li definisce quelli del PDL in Sicilia? Non sono granché. Non sono granché, cioè, basta, solo questo. Cioè sono dei lei, mentre usi le categorie di sciascia. Per favore, le categorie di sciascia, non so se sono uomini, io dico che non sono granché, punto. Non sono granché, cioè sono modesti come politici, modesti. Ominicchi. Ma questo lo dice Parenzo, che si fa forte di essere lì con la festa dell'unità, con tutti attorno che l'applaudono perché dice che quelli sono minicchi, che me ne fotte a me. Io sto dicendo che non sono granché, e comunque hanno dimostrato di non avere grandi strategie, grandi capacità politiche. Vabbè, la festa del PD dell'unità è uguale, su. No, è uguale, uguale. La festa del PD non te l'ho sentito mai nella vita, e quindi si chiama festa dell'unità. Mai sentito festa del PD democratica si chiama. Vabbè, festa democratica. Perché era... tu alle feste dell'unità ci andavi quando eri di sinistra, amici, che ricordi. E allora quindi... che mica sto rinnegando. E appunto, non sto rinnegando. Comunque ha detto. Ma le feste sono tutte democratiche, anche quelle degli altri. Per cui ma festa dell'unità aveva un senso, festa democratica non c'è. Ma democratica ricorda il PD. Comunque Berlusconi ha detto: gli uomini e le forze politiche oggi si ritrovano insieme nell'importante sfida siciliana, lo saranno anche domani. Così non sarà invece con chi oggi ha inteso dividere l'area alternativa di centro-sinistra. Insomma, lei okay, secondo hanno fatto si tentano di mettersi paura. Attenzione che non che poi non avrete posti per le elezioni nazionali. Esatto. Grazie a Dio non gliene abbiamo chiesti e non ne vogliamo. Per cui qualcuno dice che lei li ha chiesti i posti. Come? Qualcuno dice che lei li ha chiesti i posti invece. Giuro sulla morte di mia madre che non è così, perché questi signorini qua, siccome qualcosa la devono dire, allora sì, si tirano fuori anche queste cose. Io ho avuto i miei tutti i sì, parlamentari nazionali che con enorme coraggio e con sì, enorme carineria mi hanno telefonato dicendo vai avanti per la tua strada, vai avanti per la tua strada, non chiedergli nemmeno i vabbè posti, insomma, che vuole dire a Berlusconi oggi a Berlusconi cosa vuole dire dopo questa cosa che ha detto oggi e dopo dopo la sua decisione di andare contro il PDL, questa è in sostanza cosa vuole dire a Berlusconi. Io non vado contro nessuno. Vabbè, ma insomma, di andare da solo. Ho deciso di portare avanti questo progetto. Ritengo che sia il PDL ad andare contro la Sicilia. Vabbè, ma queste sono parole, amici, che PDL contro la Sicilia, che vuol dire? Nessuna parola è contro la Sicilia. Non è vero. Comunque lei ha detto, ne ha detti tutti, per esempio, ne ha detti tutti colori su Lombardi, adesso è alleato di Lombardo. Pure questo è difficile da spiegare. Scusi, questo vogliamo vedere nella storia quante Casini ne ha detto a Bersani e viceversa, oggi sono alleati. Questo non significa nulla, Crosani, perché sì, la significa... politica sa momenti in cui si governa insieme e momenti in cui si fa opposizione. Quando uno fa opposizione ne dice di tutti i colori. Ma non c'è oggi nella politica italiana un partito che non sia oggi alleato con qualcuno che era nemico fino all'altro ieri o viceversa, per cui questo facciamola a meno, se no facciamo una Bibbia di queste. Ho capito, però bene, siete detti di tutti i colori, adesso vi ritrovate insieme, la gente potrebbe essere sconcertata o no? No, è molto più sconcertata dell'UDC insieme al PD, se mi permette. Ma è quello, a proposito di Crocetta, lei insomma ha detto beatamente omosessuale, ma basta con questa questione dell'omosessualità. Ma questa è un'altra follia. Cioè io ho detto veramente omosessuale nel senso che lui lo dice beatamente e tranquillamente, non era assolutamente un'offesa al mio amico Crocetta, perché intanto ricordiamo che io sono amico di Crocetta, lo stimo enormemente. È anche amico di molti omosessuali, si dice sempre, sono amico di molti omosessuali. Sono convinto che non sia la persona adatta a fare il presidente della regione, ma questo è un altro discorso. Vabbè, quello è un altro discorso. Poi lo stimo enormemente, lui sa che quando ho avuto delle cose sì, pesanti della mafia, sono stato il primo che dal ministero sono andato a Gela sì, a dare sì, non solo la solidarietà finta ma reale. Ma è davvero omosessuale Crocetta secondo lei? Come dire, credo, guardi che ci sono vari dubbi, lui ha detto che gli piacciono anche le donne, ci sono varie testimonianze che... beh, questo è un dubbio forte, una questione importante. Era per voi forse, per me no. Cioè, sfrutta quella sua omosessuale, il fatto di dire di essere omosessuale, secondo lei? Secondo me all'inizio ha esagerato un pochettino, lo ha un po' enfatizzato. Con questa storia della castità, anche lei... Secondo me faceva bene a non parlarne proprio. Ma insomma, anche lei vuole fare il casto quando diventa presidente come Crocetta? Vuole fare il castità? Manco mosso. Ma quante volte fa? Se uno si mette in castità da presidente della regione, sarebbe talmente incazzato tutti i giorni che non potrebbe fare il presidente della regione. Voglio dire, ma perché queste sofferenze? Perché dovute a che cosa? A quale fioretto? E che ne so io? Dice voglio sposarmi con la Sicilia, diventare casto, non andare più. Bah, che ne so. Lei quante volte fa l'amore, signor Miccichè, a settimana? Non le interessa minimamente. Ma no, a me interessa. No, sì. Un presidente deve essere trasparente. Non mi faccio trascinare su un terreno che proprio non mi riguarda. No. Non la riguarda, no, assolutamente. No, va bene, questo, lei ha ragione, su questo lei ha ragione. Però, Dimmi, Parenzo, che no, vuoi dire? No, dico, può obiettare il no comment, ma è legittimo chiedere a un uomo politico, visto che il tema del sesso è entrato prepotentemente. Bravo, bravo. È entrato prepotentemente passato. Dove? Parenzo. È entrato. Dove il sesso? Nel recente passato, diciamo che alcune vicende che hanno interessato le vicinanze di Palazzo Grazioli. Oh, che diciamo... me ne frega a me. Io non mai nella mia vita, questa è una cosa che tutti possono accettare, mai stata con una escort, punto. Mai. Poi, stato, mai. Le altre cose sono fatte assolutamente miei personalmente. Al contrario di Berlusconi, dice lei, no? Credo di sì, credo che l'abbia fatto qualche volta, ma non mi interessa neanche quello. Ma insomma, vogliamo finire di essere così maniaci su delle cose che non riguardano la politica? Ma come non riguardano la politica? Amici, che riguardano ormai la politica, è tutto la politica, anche sesso. Ma vuol dire che siamo tutto veramente a un livello molto basso. Ma no, ma non è vero. Se queste cose riguardano la politica, invece che pensare, ripeto, a una terra come la nostra, ora non voglio fare la parte. Vabbè, adesso qui non è quella che lei lamenta su chi fa finta di essere a favore dei minatori. Però oggi come oggi, sì, noi, vi dico sinceramente, io subisco quotidianamente, sì, la pressione del popolo siciliano, del popolo che siciliano non riesce, del popolo chiamato della gente siciliana, sì, che non riesce arrivare non a fine mese, prima settimana. Però mi scusi, per cui oggi cosa volete che ti vada a dire a questa gente che lei quante volte scopa? Ma che vuol dire? Ma non è questo il punto. Lei lo sa che ci sono trasmissioni dove lei andrà sicuramente, in cui può spiegare quello che vorrà fare per la Sicilia, altre trasmissioni in cui si usano dei toni diversi. Ma io la capisco su questo, però lei ha ragione, non può anche non rispondere. Sono felice di usarli, ma su che cosa? No, ma lei ha ragione. Arriveremo al punto delle posizioni. No. Allora lasciamo stare. Ma infatti io ho lasciato stare. Perché è meglio non intraprendere. Assolutamente. Assolutamente. Però, per esempio, la questione... E Parenzo, mi dica di Parenzo. Parenzo, alla festa dell'unità, pensa di concludere stasera o no qualche cosa di questo genere? No, io cioè, ho altri interessi, ma volevo... Ma che significa che altri interessi? Ma non fare il buffone. Nel senso che non parlo della mia... Non parlo della mia vita privata in radio, né tantomeno con Micichè, questo è il tema. Esatto, però, bravo Parenzo, bravo. Però c'è qui una delle tante militanti del, sì, Partito Democratico qui, sì, al mio fianco, sì, che mi sta guardando, sì, che è ansiosa di fare una domanda a Micichè, vero? No, io non sono ansiosa di niente. Ecco, benissimo, che... questo mi sembra, mi sembra... Ho capito perché non lo voglio più alla radio. E la gente la pensa così, ma tu dici è ansioso di fare la domanda a Micichè, sì, anche se avessi detto ansioso di fare la domanda a chiunque. Riproviamo avanti. Buonasera signora. Lei so che è ansiosa di fare una domanda al signor Micichè, vero? No. No, mi spiace, due. Chiedi se lo conoscono. Chiedi se lo conoscono. Chiedi se lo conoscono. Parenzo, il tuo è un successo trionfale. Mai sentito nominare. Benissimo. Che ne so, un altro ancora, siamo a Reggio Emilia anche, bisogna. Siamo nel paese dei matti, non inventare dei nomi. No, che inventare? Cioè, Micichè è candidato alla presidenza della regione Sicilia, Micichè. Ah, ma adesso sono Micichè, che razza, Reggio Emilia no. Hai capito, gli altri niente, c'è giusta Reggio Emilia. Torna indietro, basta fare queste brutte figure, perché a me non ti riprenderò più. Queste sono inchieste. Scusi Micichè, ma lei vuole mettere il bavaglio al giornalismo? Vedo che le vuole mettere il bavaglio. Comunque mi appello a Sidi, alla Federazione Nazionale. Sei zitto, Micichè, senta cosa ha detto Crocetta lei di ieri. Beh, ci sarebbero tante cose dalla vita privata di Micichè che non si potrebbe. Senta che dice Crocetta, senta. Ma supponiamo che io sia beatamente omosessuale. Quale sarebbe il problema di Micichè? Io credo che lui abbia veramente un po' esagerato, eh? Io non ho mai offeso Micichè per la sua vita privata e ce ne sarebbero di cosucce da dire. Lo comincerei a offendere, quindi... Ci l'ho conosciuto. Non sembra esagerato quello che ho detto, sinceramente. Vabbè, l'ha capito poi, male, magari l'ha capito male. Poi, non c'è dubbio che su di me ci sarebbero mille cose da dire, ma ci sono anche dei percorsi della vita, c'è il periodo dei 30 anni, c'è il periodo dei 60. Ma lei per esempio ha mai fumato uno spinello? C'è il periodo dell'impegno sociale, c'è il periodo di fare casino quando si è ragazzi, voglio dire. Sono, ma lei ha mai fumato uno spinello, amici? Sì, l'ho fumato. L'ha fumato, eh? Ma quanti? Anche recentemente? No, recentemente... Lei sa che qualcosa come 20 anni fa, sì, fu uno Spinello e mi andò via la testa a tal punto da spaventarmi. Addirittura. Per cui, è un discorso chiuso. Ne fumava abitualmente, no? Basta così, sigarette, Marlboro. Beh, ho capito, ma uno solo ne ha fumato. Oh, che Cruciani. Ma questo è importante. Non a parlare di tutte le tutti gli errori di oggi di Parenzo. Ma che c'entra Parenzo? Mica si candida alla presidenza della Regione Sicilia. Uno vuole, per esempio, i siciliani vorrebbero sapere se lei è per la legalizzazione delle droghe, magari è a favore. Guarda, io ti devo dire una cosa, oggi non è più argomento. Quelle leggere? Nel momento in cui c'era la mafia molto forte a Palermo, io avevo una mia convinzione, sì, che poteva essere giusto o sbagliata, non facevo neanche politica. E io sostenevo che, sì, una legalizzazione controllata, diciamo così, sì, della droga avrebbe certamente tolto grandissima forza alla mafia e al traffico. Bravo. E allo spaccio. Bravo. Ecco, quindi questa era una mia personale idea che portai avanti. Bravissima. Che, di cui feci grandi, con cui feci grandi discussioni ai tempi. Ma cui, anche attuale. È anche attuale. I ragazzi si parlavano, non era come adesso che si chatta. Ai tempi ci si riuniva, si parlava, si affrontavano delle tematiche. Ma è anche attuale questa cosa, amici, che eccetera, e quella è la mia posizione. Ma non è attuale, sì? Sì, è attuale. Oggi devo dire che, come dire, la mafia di oggi, per nostra fortuna, non è quella di 20 anni fa, di 30 anni fa, che era pazzesca. Vabbè, era... c'è ancora la mafia oggi, no? Immagino. Sicuramente ce sarà ancora, in questo non lo so. Perché... Come non lo sa se non c'è la mafia? Ma allora si sentiva fortemente. Comunque... Oggi per il cittadino... la mafia non è più così visibile. Io ricordo che quelli erano gli anni in cui c'erano 100-110 morti l'anno di sparatori. Cioè, lei dice... c'erano le sparatori in mezzo alla strada. Lei dice che oggi il mondo, oggi è molto cambiato. È quasi sparita. Tizio, è quasi sparita. Palermo, è certamente Sicilia... più sotterranea. Più sotterranea. Sì. No, ma comunque, in Sicilia oggi ci sono un sacco di imprenditori che si ribellano a pizzo. Quando promisi il mio impegno per fare la Palermo-Messina, che era da 40 anni, che era 40 anni, che era ferma, l'abbiamo fatta in 2 anni. Io credo che una mafia forte, come era prima, non avrebbe consentito una cosa di questo genere, perché sarebbe intervenuta per gli appalti, subappalti, eccetera. Magari siamo messi d'accordo. Quella fu un'operazione che mi fece capire che comunque non c'era più la mafia di quando io ero ragazzo, non c'era più la mafia di 20 anni fa. C'è meno mafia oggi c'è meno mafia. Ho capito. Senta, amici, però qui alcuni chiedono, ma lei, va bene, legalizzazione delle droghe leggere, sì, mi sembra, no? No, lei ho capito tutto, qual è quella che vabbè, era la mia idea. E quella che è ancora la sua molto, idea, che è ancora molto, la sua molto idea. Molto chiara. Oggi, ripeto, non c'è più il, non sento più questo fatto della, della mafia che si fondava, cioè che aveva tutta la sua, come dire, che recuperava tantissimo denaro. Da questa, dal lavoro dello però spazio, comunque eccetera. È attuale o no questa cosa? Sì, si può fare ancora questa legalizzazione delle droghe leggere, sì o no? Secondo me sarebbe una cosa giusta da fare. Oh, questo lo dico sinceramente. Bravo, bravo, sono d'accordo. Dovrebbe essere una cosa sicuramente molto controllata, però certamente sarebbe non un fatto soltanto di libertà, non la intendo. Cioè, in questo senso, i giovani che fumano gli Spinelli a Palermo, lei insomma, in qualche modo lo dica, potete essere liberi di fumare gli Spinelli a Palermo? No. Come no? Come no? Finché non ce la leggono, però dovrebbero essere liberi. Dovrebbero essere liberi. Ma qual è la differenza? Io oggi ho 60 anni. Sa la differenza tra quando uno ne ha 30? Lei oggi è più vicino ai 30, credo. No. Sì, molto più vicino. Ma quanti anni ha lei? 45. 45, quindi più vicino ai 30. Quindi a metà precisa. A metà, insomma, quando uno ha 30 anni rispetto a quando ne ha 60, sa come il mondo cambia nella testa, nella visione, nelle reazioni, nel pensiero, in maniera veramente importante. Per esempio, la prostituzione la legalizzerebbe lei? Anche quella legalizzerei. Oh, facciamo un bel quartiere a Luci Rossi a Palermo. Abbiamo questo, noi di Grande Sud, abbiamo anche presentato una proposta di legge. Bravo, Perché oggi come oggi, immaginare che ancora ci sia questo spettacolo, certamente al di là dell'estetica. Bravo. Ma sicuramente. Ma a Palermo si può fare? A Palermo si può fare? Certissima poca sicurezza di chi lavora, chiamiamolo così, di chi fa questo mestiere, è di una situazione sempre comunque nelle mani di qualche malavitoso. Bravo, ma a Palermo si può fare un quartiere a luci rossa, secondo lei? No. Non si può fare, Non si può fare. Senti, ma la droga pesante, lei l'ha mai provata la droga pesante? Senti, Cruciani, io ho già confessato, come dire, non avete altro da dirmi, è inutile che cerchi di farmi uscire cose, perché quando no? successe quella cosa bestiale al ministero, ma non me la ricordo più, io non me la ricordo totalmente smentita, Michiché, non me la ricordo io comunque no. a Giuliano Ferrara sul Foglio e poi in trasmissione, dissi senza nessuna preoccupazione che nella mia vita avevo fatto anche questa esperienza, che la cosa non mi preoccupa, devo dire, come dire, non ho mai rinnegato nulla di quello che ho fatto nella vita. Posso avere sbagliato, ma non rinnegarlo. Posso dire, se dovessi... Non fatelo. Quella cosa non la farei, ma non rinnego nulla. Ma anche non fatelo, si può dire non fatelo? L'ho sempre detto apertamente. Non si può dire non fatelo? Perché mi sembra che le esperienze di una persona siano quelle che poi la forgiano in una determinata maniera. Si può dire non fatelo? Ma l'ho fatto in un periodo in cui tantissima gente è stata, come dire, non male, c'è morta. E allora, come dire, il fatto di avere vissuto anche quello spaccato della società. Beh, danzano come zanzare queste ombre. Sei ancora a casa, Emo? Voce di Marcello Dell'Utri quando è venuto qui alla Zanzara. Beh, ma guarda, ancora a casa, Emo? Ancora a casa? Com'è che si dice... Pronto, ci siamo. Ferma tutto, ferma le maestranze, ferma Michiché, ferma le rotative, non mandare in stampa il giornale perché abbiamo... Ma quale giornale? È la radio questa. Ho detto ferma le rotative, è una grande metafora dell'informazione. Però ferma tutto perché al mio fianco c'è uno dei più grandi cantanti, ma uno dei più grandi cantanti, mi riconoscono dalla voce. Te lo passo perché, cioè, guarda, sicuramente Michiché lo riconoscerà perché è una roba dei suoi tempi, peraltro. Aspetta, Cosa vuol dire una roba dei suoi tempi? Tu sei la mia trasmissione, io ti ascolto sempre, credo che tu abbia il migliore trasmissione della radio italiana, davvero, e non è una sviolinata. Ciao Beppe, sono contento a parlarti. Ma questo è Charles Shapiro. Ma questo è Charles Shapiro, sì, davvero. Ma chi è? Chi è? Chi è? Come che Charles Shapiro, Mitici Rocks. I Mitici, com'è? The Rocks. The Rocks. Ah, The Rocks. The Rocks, sì, una volta, insomma. Voglio non dirmi che non mi ami più. Ma chi è che canta? È così o no? No, com'è Michiché, la rifaccia? Ma era Michiché che stava cantando? Sì, aspetti un attimo. Allora, poi a memoria non me la devo ricordare. È meno giovane di quello che sembra. Beh, a 60 anni, a 60 anni quasi. No, com'era poi? Shapiro, com'è? Allora, come me, sono più grande io, però, dai. Shapiro, com'è che fa questa canzone che stava cantando Michiché? C'è una strana espressione nei tuoi occhi. Vogliono dirmi che non mi ami più. Esatto. Sì, ma la canti, mi la fa canti. Capire che io ti perderò. Un giorno vengo lì con la chitarra. Fantastico, la cosa migliore di questa trasmissione è aver parlato con Charles Shapiro. No, vabbè, Michiché, perché devi dire? Perché l'abbiamo chiesto di questa storia? Perché con Parenzo all'Unità, dai, la Festival dell'Unità è una cosa vergognosa. Dica che non si fa quello che lei ha fatto una volta o più volte, cioè la droga pesante. Dica che non si fa ai giovani di oggi. Che non si fa. Ma oggi, ripeto, cosa non ci fa ai giovani? Io non di rinnego oggi nulla di la droga pesante, la cocaina. Non rinnego nulla di quello che ho fatto, ma so capire quello che ho fatto di giusto e quello che ho fatto di sbagliato. Certo. Shapiro, lei ha mai fatto uso di droghe pesanti? Uso di... Beh, li ho assaggiati come tutti, credo. Beh, come tutti, io per esempio no. Però io no, ma io no, niente, ma però... Ma in quel periodo, non è un crimine se li assaggi. No, e chi ha detto niente? È una stupidata rimanere agganciato, ecco, quello sì. Assolutamente, scusi, ma Michiché, canti qualche canzone di Shapiro? Le so tutte. E allora ne intoni qualcuna. Bisogna saper perdere, non sempre si può vincere, ed allora cosa vuoi? Quante volte lo sai, si piange d'amore, ma per tutti c'è sempre un giorno di sole. Beh, è uno spettacolo, anche perché bisogna saper perdere, mi sa che... Michiché, i sondaggi... quello al Festival dell'Unità glielo deve raccontare a tutti quelli che sono là. Che ancora non hanno imparato, è incredibile, dopo tutte le esperienze che hanno. Ma l'alleanza tra UDC e PD e Crocetta è contro natura, secondo lei, Michiché? Non è contro natura, è soltanto in funzione di accordi nazionali del dopo elezioni nazionali. Non è contro natura, non c'è niente. Shapiro? Ehi! Ma quando viene a trovarci con la chitarra a cantare? Quando, guarda, appena che ritorno a... Dove sei tu? A Roma? O a Roma o a Milano? Tu dove lavori? Ho un po' tra un po' a Roma vengo e un po' a Milano vengo. Sì. Va bene? Cantami qualcosa al volo, ti prego, fammi emozionare. Dai. Sotto una montagna di paura e di ambizione c'è nascosto qualche cosa che non vuole. È la pioggia che va. Beppe, ci vediamo presto. Abbraccio, ciao, presto. Anche presto, a te. Presto. Ciao, ciao. Michiche, le abbiamo regalato questa cosa. Michiche. Fantastica, però se lui mi viene a trovare a Roma e voi non mi invitate, non vengo più in trasmissione. No, ma è lei, scusi, dopo quello che ci ha cantato stasera, secondo lei io non la invito? Ma subito la invito, immediatamente. Secondo me è stata la più bella canzone dei Rocks. Una canzone che non ha avuto infinito successo, ma che secondo me è una canzone di una dolcezza incredibile, che era un'anima pura. Per esempio, come fa? Tra le mie mani, o tra le mie mani, ho un'anima pura, quando sfioro il tuo viso. Basta così. Beh, esagerato. Siamo al top, qui siamo al ho top. Ho esagerato, sa quanta gente oggi dopo questa trasmissione dirà ma noi possiamo votare al Presidente della Regione 1 che perché? Canta la radio. Ma guardi che al contrario, Michiche, non ha capito, lei lo sa bene, lo sa come funziona, lo sa come funziona meglio di me. No, comunque guarda, quando Michiche era una persona normale, era un militante di sinistra, cantava ma le belle normale? Canzoni. Scusa, normale, questa è una tua valutazione del normale. Io mi sono talmente pentito di quello che non mi considero molto più normale oggi. Addirittura? Sì, sì. Ah, cioè è anormale chi è a sinistra? No, se tu dici quando ero una persona normale ed era di sinistra, mica quelli che non sono di sinistra non sono normali. No, ma io ti ho chiesto. Ha ragione lui stavolta, su, dai, Parenzo, stacci, ha ragione lui stavolta, dai. Comunque la cosa della droga pesante adesso mi fa rivenire in mente, non è che è di 100 anni fa, è recente quella cosa là, dunque non era un errore di gioventù. Falsa. Ma quella era totalmente falsa. Ah, quella era falsa, il passato no, ok. Totalmente ma non me la falsa. Ricordavo nemmeno. È stata chiarita in una maniera. Non me la ricordavo, non me la ricordavo. La magistratura di Roma che non ha assolutamente immaginato di poter andare avanti su una cosa che era palesemente. Che dicevi, Parenzo? Che dicevi, Parenzo? No, volevo, se, gli ho detto semplicemente che volevo capire come valutava gli elettori di centro, visto che lui dice. Vabbè, che basta, abbiamo chiarito, su. Michiche, io la voglio in studio a Roma con Shapiro, per forza. Guarda, certo. Quello mi fai un grande regalo, mi fate un grande regalo a me. Va bene, a presto, l'abbraccio. Un abbraccio, arrivederci. 20 e 6 minuti, pubblicità, torniamo subito. Gioele da Milano, Pino da Como, Mauro da Milano. Ancora non è finita la zanzara, fino alle 20 e 30 abbiamo grandi sorprese, un personaggio incredibile, incredibile, vi dico solo questo, incredibile, non quelli che porta Parenzo, quattro straccioni lì alla festa del Partito Democratico, detto con tutto il rispetto, però oggi ci ha portato anche Bonanni il signor Parenzo, dunque insomma, devo inchinarmi. Io la combatto. Eccoci qui, 800 24 00 24, Gioele da Milano, poi Mauro da Milano, Pino da Como. So che devi andare via, non rompere le scatole, pare. No, un attimo adesso, solo, fermati. Adesso volevo soltanto dirti una cosa, dopo queste grandi interviste di oggi che abbiamo fatto, io voglio collegarti uno dei più grandi intellettuali della sinistra italiana. Vediamo il chi futuro c'è. Della sinistra non passa come tu credi attraverso Bersani, Renzi, tutte queste cose qui, ma c'è un personaggio che incarna anche fisicamente il dramma della sinistra in questo momento, sofferenze e le sue passioni. Allora, esclusiva alla Zanzara, per l'ultimo collegamento di questa sera, dopo Bonanni, dopo tutti i No, ma ce n'è un altro, ce n'è un altro tra poco. Stai zitto che ora conduco io da qui la trasmissione. Ma non è vero. È con noi l'onorevole Dario Vergassola. Pronto? Onorevole Vergassola, ma io mi offenderei, Dario, mi offenderei a morte. Sono Cruciani. Cruciani, ti sei una voce completamente diversa, buongiorno, bentornati intanto. Grazie, grazie. Io speravo che avessi perso per le ferie come i cani abbandonati in autostrada il buon Parenzo. E invece no. E invece è tornato. Invece a fare 1000 chilometri a piedi. È tornato pure lui, che vuoi fare? È tornato a piedi e siamo qua, la festa metà al tavolo, con scritto anche floricoltura e vivai, poi c'è Bersani, Reggio Emilia, c'è tutto. Volo, c'è una specie di bruschetta con l'acciuga. Ma che atmosfera è? Un po' triste. la è un po' triste, come un po' in realtà anche il PD in realtà ultimamente, però sì, la cosa bella è che come vedi il partito è in mano ai comici, sia che siano politici, sia che siano comici che vanno alle feste all'età, che guadagnano una tonnellata di palanche. Io invidio molto questo. Ma tu quanto, che cachet hai preso là? Perché qui si parla molto di cachet. Allora, io stasera prendo zero, cioè sono anche due agenti della mia agenzia che prendono il 15% di zero e poi divideremo il camerino, perché si è portato via tutto qualcun altro, ma vedo che è venuto un comico bravo. un comico che è un agente molto forte, molto conosciuto, che come iniziali fa LP, credo, LP, che non è l'LP ma è un altro personaggio, insomma. No, guarda, vabbè. So che quando vengono i comici grossi qua vengono e fanno mandata, se gli vuole, bravi, perché sì, per carità, si meritano tutto. Io vorrei diventare come loro, arrivare qua e portarmi via tipo 20 euro a testa. Però scusa Dario, ma basta fare, basta ormai, il duello è tra Benigni, Grillo, a suon di Pirla, oggi Bersani è stato del Pirla di nuovo a Grillo, poi intanto la cosa buona dal punto di vista politico è che si è defilato un attimo Bersani, perché la querela tra Bersani e Grillo, sai che fa felice te soprattutto, però me la trovo veramente. Beh, intanto Fede si è fatto il partito, vogliamo anche vivere, Fede ha fatto il partito. vogliamo vivere una per l'età che c'ha Fede, è un grido di dolore, un grido d'aiuto. È stupendo, vogliamo vivere di Fede, è stupenda. Cosa ti ispira, vogliamo vivere? Vogliamo vivere, ma senza fede anche. Anche senso, no, con tutto il bene, però potrebbe essere anche un, cioè, senza il PDL di turno, senza neanche. Ma caro Dario, se fossi in onda da qualche parte, ti vorrei leggere una cosa, perché so che ti esalti a sentire queste cose. Senti cosa dice Fede. Mi rivolgo specialmente all'elettorato femminile. Mica può andare tutto dalla Santanchè. Si rivolge all'elettorato femminile, signor Fede. Perché Fede deve aver fatto del bene alla parola femminile, una persona seria e ha ragione, con le meteorie, cioè io non so, poi professionalmente deve essere anche uno bravo, però l'idea che vada al pubblico femminile è come io parlo al pubblico femminile mio, cioè capisco? Certo, vogliamo vivere, come la canzone di Vasco Rossi, mettetevela un attimo. Vogliamo vivere e non sopravvivere, però ti dico, l'atmosfera che c'è nel PD... Qua la festa da un'osteria dal vecchio Casel, sì, il vecchio casale, sì, è abbastanza sempre un po' allegrotta, nonostante i leader che si ritrovano adesso sono abbastanza allegrotti. Cioè lei sta dicendo, voi bevete, magnate, state allegri e tranquilli, mentre quelli insomma sono tristi. Poi guidiamo noi, no? un po' così. Il problema è che qua non si capisce poi tra Renzi, questo fantasma. Ma tu chi voteresti, Dario? Chi voteresti? Fossi... Io mi tocca dirlo in macchina. Sì, dillo. Io a questo punto potrei Bersani, lo dico anche piano, perché fai il coming out, cioè Vergassola vota Bersani alle primarie del Partito Democratico. No. Se dovessi andare a votare, alle se dovessi andare a votare, sì, delle cose voterei Bersani. Probabilmente Bersani, perché Renzi è il nuovo che zoppica, non è il nuovo che avanza. Lo vedo più vecchio lui di chiunque altro. È il nuovo di Arcore, nuovo di Arcore. E poi fondamentalmente, sai, io ho davanti Lampi qua adesso, sì, e mi viene in mente il paragone, cioè lui che va a cena da Berlusconi, un leader della sinistra che va a cena da Berlusconi di nascosto, perché poi se l'avesse detto non c'era problema, sì, ma di nascosto la trovo un po' una cosa che c'entra brutta. Lampi dice? No, c'entra Lampi, perché come se non so, durante la guerra della resistenza, cioè il gerarca nazista va, non so, il capo partigiano va dal gerarca, perché poi dice no, ma lo so, però sotto cena, ma era il compleanno di zia, ma non c'entra niente. Cioè c'è un momento particolare, ci sono due schieramenti, c'è una politica da fare e non si possono fare i salottini. Però c'è anche Giorgio Gori con Renzi, Giorgio Gori che... Ma c'è o non c'è? Perché ultimamente si è dato un po'. Bravo, vedo che cogli tutto, non ti fai mancare niente. Sì, sì. Io facevo un programma anche dove c'era Gori sul 2, che era Bulldozer, perché poi ho chiesto anche la bandiera della pace, ho detto due battute sul morbo di Arcore e su Berlusconi, e poi sono sparito anche da quella lì, però me li ricordo tutti, me li ricordo bene. Però non sarebbe male aprire a gente, io sono d'accordo, poi Gori secondo me è uno che deve essere anche molto bravo nella comunicazione. Trovo Renzi che quando parla di giovani, sì, ecco, mi viene in mente tutto anche fuori che Renzi. Cioè, lo dico col cuore, non mica perché è un problema. No, però insomma tra i due ti piace Bersani. Però non c'è più Bersani. Sì, ti piace più Bersani. Dario, pensa, ti abbraccio fortissimo. Messi. Vivere. Pensa voglio andare. Pensa come siamo messi. Vivere di Vasco Rossi. Ti saluto così, perché potrebbe essere questa la nuova colonna sonora. sulla tassa quella sulle bibite gassate. Ah, bello, dimmi una cosa su questo, sì. Cioè, la tassa sui rutti hanno messo, al mio bar si sono molto lamentati. Ma anche i leghisti si lamentano, pare. Specialmente Calderoli dirà, come facciamo adesso? Questa è un'idea. Comunque, grazie, vogliamo vivere. Vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere. Fondo un movimento di opinione perché ho ascoltato tanta gente che mi incoraggia, dice Fede. Il PDL rischia di diventare uno spartito stonato. Si sta muovendo da solo? Mi muovo da solo e ci metto soldi miei. Berlusconi non ne sa niente. Vogliamo vivere riassume il malessere di tanti sotto il cosiddetto governo tecnico. Il centrodestra non può finire in mano alla Santanchè. E di là chi c'è? Beppe Grillo? Io non sono un politico, io ho una storia, 60 anni di giornalismo, la RAI, l'Africa, le guerre seguite al TG4, questa storia 2 anni fa è stata inquinata, ma non mi faccio intimidire. Come perder tempo a vivere. Vogliamo vivere, il nuovo movimento politico di Emilio Fede. Intanto Maurizio, provincia di Cagliari, buonasera. Dica. Oggi è riuscita a pizzicarmi 2 volte la zanzara. In che senso? Scusi, Maurizio. Io sono figlio di un minatore, cognato, sì, di un minatore, quindi sì, un po' così con quella frase che però ho avuto modo di chiarire. La seconda volta soprattutto il discorso tra lei e il villaggio. Sono anche un paraplegico. Sì. Cioè lei dice si riferisce a villaggio sulla questione delle sì, Paralimpiadi. Lo so, ho capito. Un po' così. Molto forte, molto forte, molto forte. L'ho trovata molto brutta. Molto forte, brutta, sì, anche brutta, però uno può avere anche un parere, diciamo, non ortodosso sulle Paralimpiadi. Non è che ha detto che devono andare a rogo, Non è che ha detto che devono andare a rogo. Ma infatti, per quello ho detto che la zanzara mi ha pizzicato. Però capisco che, guardi, sulla questione degli operai ho chiarito, io mi riferisco a una discussione tra me e Parenzo, certamente non posso dire non me ne frega niente di gente che si taglia le vene, di gente che sta male, non è quello il punto. Non faccio del facile provocazione, la prendiamo come tale. Non faccio del facile pietismo, non mi metto a fare il quello che piange in diretta, perché non è così. No, ma non serve a nulla, non vogliamo. Perché ci penso poco oggettivamente, lo ammetto, ci penso poco, perché mi occupo di altre cose e lo ammetto. Bravo, ci penso poco, non è un'autocritica, non sto facendo autocritica. Ogni tanto serve dire, ma non è un'autocritica, la ho detto che ci ho due parole, ho sbagliato. Ma non c'entra niente, dire, ma dirlo due parole. Ho sbagliato un po' di umiltà. Ma su che cosa ho sbagliato? Su che cosa? Comunque hai sbagliato. Comunque guarda, io voglio chiudere questo collegamento. No, aspetta, che c'è una persona. C'è una persona. Con un ospite che ti porterà una testimonianza vera di vita. Una testimonianza. Ed è il signor. No, sono Simonini. Simonini. Non è un signore, ha detto. È uno che lavora. Che è uguale. Ha capito? Simonini, allora adesso ci sono 12 minuti di Simonini. Ma no, stai fermo un attimo, ti devo presentare una persona. Aspetta, salutalo prima. Oddio mio, Simonini. Signor Simonini, buonasera, grazie. Che fa lei? Che fa lei lì? Auguri a lei. Auguri, che fa io lei lì? Ho cominciato 17 anni a lavorare alle feste dell'unità. Bravo. Sa quanti anni ho adesso? Ne ho 83. Hai capito? Ho capito, benissimo. E lavoro ancora tutt'oggi. Vabbè. Capito? Auguri, tantissimi auguri. Hai capito? Ma queste sono le aspetta storie che dobbiamo ogni giorno raccontare. Maurizio. E poi a Bersani l'altra sera, quando è venuto, sì, sabato sera all'apertura, sì, ci ho detto, io prendo 780 euro al mese di pensione. Però ho detto al signor Bersani, ci ho detto, io sono disposto a lasciare un mese della mia pensione, purché voi altri veniate dietro a me per salvare l'Italia e i nostri figli e i figli dei nostri figli. Hai capito? Grazie, ho buon capito. Lavoro intanto. Grazie. Maurizio, che ha da aggiungere? Poi c'è una persona in linea, che ha da aggiungere? No, semplicemente invito tutti quanti a guardare le Paralimpiadi. Comunque può essere un momento importante, può essere un momento di al contrario di quello che dice, sì, guardi, lo vivo di quello che dice villaggio, sì, e ci metto tutto l'impegno nel lavoro, nello sport. Ma io sono vita, d'accordo con lei, non c'è nulla di bimbi che ho di 7 anni ed è tutto molto bello ed è comunque ne vale la pena. Sono d'accordo e con lei, non che lanciamo, sì, cerchiamo di lanciare con lo sport, con queste, sì, manifestazioni è proprio questo, andiamo avanti, andiamo oltre. Sono d'accordo con lei, non è assolutamente una cosa brutta vedere persone che hanno avuto sfortuna nella vita in televisione. Grazie, come dice Villaggio. Maurizio, grazie. Silvana Grasso è con noi, mi scusi il ritardo, signora Grasso. Carissimi, ci rifaremo dei minuti. Come sta, cara Silvana? Come sta? E soprattutto assolutamente divertita, anche perché negli anni dal fidanzamento Crocetta oggi, io sono, e dirò uno scoop, fidanzatissima con lo psichiatra di Crocetta. Lei c'è, si è fidanzata prima con Crocetta e poi col... E poi con lo psichiatra! Ma una cosa pazzesca! Quanti anni è stata fidanzata con Crocetta, scusi? Ma con Crocetta, allora, un anno e mezzo all'epoca, tra la fine della prima candidatura, della prima sindacatura e la seconda. Ah, ma quanti anni fa, scusi? Allora, andiamo 7 anni fa, ci siamo conosciuti, diciamo, mi ha preso così questo corteggiamento, sì, stilnovistico all'inizio, sì, ma poi aveva tratti di scuola poetica siciliana, poi aveva tratti trimalcioneschi. Io sono, sì, un filologo classico, quindi lei è scrittrice, docente di greco e latino, certo. Ecco. Ma insomma, quindi, questo corteggiamento particolare, però è andato, come dire, a buon fine questo corteggiamento, sì? Ascolti, il corteggiamento, diciamo, io adoro la metamorfosi, quindi sì, dalle metamorfosi ovidiana alle metamorfosi apuleiane, vedere la metamorfosi di Saro Crocetta che nasce corteggiato da ragazze in quel di Gela, insomma, sì, faceva il tomber. Il tomber de femme. Poi si converte a una omosessualità forzosa, letteraria, poetica, perché noi qua in paese non abbiamo visto mai nulla. Sì. Poi una sera, cioè, scusi, mi sta dicendo che è Agostano, sì, mi vuole al suo fianco e cominciò da lì, tu sei la prima donna, tu sei la mia prima donna, poi ci fu il ballo alla Croce Rossa, poi furono fiore, poi furono cioccolati, poi furono inviti bellissimi. Ma fu anche sesso poi o no? Furono anelli. Fu anche sesso o no, cara Silvana? E allora le dico questo, che purtroppo, arrivati al dunque, siccome, diciamo, fui invitata a casa sua, ma d'altro poi eravamo, sì, vicini di casa, insomma, un isolato, sì, essendo io pure una scrittrice, sì, io sono sempre curiosissima e cupida novi, quindi, sì, mi sono assolutamente avventurata in questa sua casa, ma mentre io pensavo che dovessimo, insomma, accedere a un talamo, con almeno dei materassi, delle, certo, reti, se non delle piume, ma so, un materasso della Permaflex, di questi che vendono in televisione, mi sarei accontentato, sì, di questo. A un certo punto mi mostrò e io pensai a un suo, a presente, insomma, le punizioni dei, così, nell'anno 1000, le punizioni corporali, sì, battersi nel corpo, le cinture di castità. Cioè, che c'ha? Insomma, mi inoltrò in questo ambiente dove c'era una sagoma durissima, un sarcofago. Un sarcofago. E io chiesi, di legno durissimo, io chiesi, cos'è cotanto? Sì, cos'è cotanto? Questo? Sì. E lui mi disse, no, sai, questo viene, l'ho divelto con le mie mani da una stazione tunisina. Un sarcofago divelto da una stazione tunisina? Sì, tunisina. Poi questo sarcofago in realtà era una sorta di in sala d'attesa, era insomma una seduta di sala d'attesa durissima, sì, con una stuoia che lui pare avesse, avesse... Ma insomma, voleva fare all'amore lì? Che avesse con le sue mani che ha catturato da, sì, un ghepardo. Sì. Io, conoscendo quanto è Fifone, non credo mai, forse, vabbè, corteggiava la gheparda, ma non credo mai che lui abbia scannato il ghepardo. Sì. E io le dico che sì, confesso, ahimè, fui pavida, perché in omaggio alla mia ernia, ernia, sì, dorsale, ernia del, sì, disco, io mi ero operata 2 volte nel giro di, insomma, 8 mesi. Non voleva farsi... Quando vidi questo sarcofago, sì, di legno durissimo, inchiodato, insomma, hai capito qualcosa come la crocefissione del Cristo? Assolutamente. Non ritenendomi all'altezza della Madonna, insomma, sono fuggita perché dunque lei non ha mai consumato, non ha mai consumato col signor Crocetta? No, allora io credo che Crocetta abbia consumato molto quella sera, molto pane e salame, perché poi ghiottissimo, molto di tutto e di più. Io so soltanto che sono fuggita dopo aver visto il sciatto. Ma scusa, allora che è stato fidanzato, è stato fidanzato tutto sto tempo senza mai consumare con Crocetta lei? Io gli chiesi: mi fai vedere la camera da letto? E lui? E ha detto quella no, perché quella dopo le nozze, dopo che le saranno nozze celebrate in chiesa madre. Ho capito. Con cornucopie in tutta la città. Ma roba da pazzi. Io le dico la verità, sì, sarà un fatto evocativo, ma questa delle cornucopie mi mise in fuga. Questo lo posso capire. Scusi, signora Grasso, dobbiamo concludere. Io voglio capire una cosa: è gay per finta? Si dichiara gay per finta? Deve essere sintetica, signora Grasso. Poi la richiamerò domani, ha già preso l'appuntamento. Allora, io le dico questo: a secondo di come gli serve e ti disposto a dichiararsi qualunque cosa, muto, sordo, focomelico, aracneico, a seconda di come gli serve. Ho capito. Ti dichiarerà qualunque cosa. Scusi, ma compreso Clarissa, compreso Ferdinando. Ma mai un amplesso? Mai un amplesso con lei? Mai un amplesso con signor Crocetta? Mai uno? Lui lo voleva però, o no? Ma sa, io le dico una cosa, io vivo tra reale e verosimile, e stasera siamo andati così sul verosimile, magari domani andremo sul reale. Ah, a domani allora, la bacio, l'abbraccio, signora Grasso. L'abbraccio forte. Ci sentiamo domani. Silvana Grasso, scrittrice, docente di greco e latino al ginnasio, è stata fidanzata con Rosario Crocetta, candidato alla regione Sicilia, presidente, e ci racconterà molte, molte, molte cose. Vi abbraccio tutti, a domani la Zanzara, 18. Ma il culetto è mio perciò, no puntura, no no no. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, lo dica, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. La passione si sente.